La zanzara. Estate. Con Alessio Maurizi. 18 e 9 minuti, buonasera, ben ritrovati cari ascoltatori, insieme fino alle 20:30 in compagnia dei vostri interventi all'800 24 0024 e anche in compagnia delle Olimpiadi, perché tra pochi minuti ci sarà la semifinale del Taekwondo con un italiano presente, che dunque si gioca la medaglia, la possibilità di una medaglia. Cominciamo, titoli di Sky TG24. Olimpiadi russo in finale dei pesi massimi, stasera semifinale per volley e pallanuoto. Il Consiglio dei Ministri riduce Italia ai tribunali, salvi quelli nelle zone di mafia. Caso Ruby, Berlusconi alla stampa francese, gli italiani sono con me, sarò assolto. Inflazione a luglio, spesa meno cara, ma domani scattano nuovi aumenti della benzina. La stangata si abbatte sulle partenze di Ferragosto, da nord a sud e caccia intanto ai piromani. Winjet diserta l'incontro con l'ENAC che minaccia senza garanzie, stop già da lunedì. Conte squalificato, la Juve compatta col suo allenatore per Buffon, non è finita qui. Il cinema piange, il papà di E.T. è morto, Carlo Rambaldi aveva 86 anni. Si lotta per sopravvivere. Per chi non l'avesse sentito, ieri sera ve lo riproponiamo, le dichiarazioni del presidente della provincia di Trapani, Mimmo Turano, che ha così giustificato i tentativi fatti, anche comprando una pagina di giornale, per fare pubblicità e, insomma, evitare che la sua provincia, come sapete è previsto dall'accorpamento delle province nella Spending Review, vada a finire nel nulla. Mimmo Turano. Non ha comprato mezza pagina sul Corriere per fare un appello? Guardi, non è proprio così. Il Corriere della Sera ha fatto un'edizione speciale sul Corriere del Mezzogiorno, sì. E io ho avuto la possibilità, con un messaggio promozionale, spendendo una cifra molto modica, di far sapere qual era la mia idea sul riordino delle province. Quanto modico, se possiamo permetterci? Volentieri, credo 990 euro IVA compresa. Allora modico, sì, beh, sì, 1000 euro per una battaglia come questa, cosa vuole che sia? Compreso, IVA compresa. Sì. Siamo l'unico ente ad avere una partecipazione molto alta nella gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi, che è il primo aeroporto in termini di crescita nel mondo. Siamo nel l'unico... mondo, il primo aeroporto in termini di crescita nel mondo. Vabbè, ma questa è fantastica. Fino al 1960 il comune di Camporreale faceva parte della provincia di Trapani e ha chiesto di trasferirsi in provincia di Palermo, e noi, come dire, noi gli amministratori dell'epoca sono stati d'accordo. Dico, al danno la beffa, il territorio lo avevamo, un pezzo lo abbiamo ceduto, ora ci troviamo a correre il rischio di essere, come dire, riordinati, chiamiamo questo termine. Io non sono... Le guerre puniche. Così a Trapani, Mimmo Turano, il presidente della provincia. Intervista, è tornato, di Silvio Berlusconi a Libération, al quotidiano francese, nella quale dice un po' di cose. L'ex presidente del Consiglio, mi chiedono di tornare, non ho ancora deciso, sarò assolto in tutti i processi, eccetera, eccetera. E poi dice che tornare all'euro sarebbe un disastro. Tornare all'euro sarebbe un disastro, ma qualche tempo fa aveva detto... Poi lo sentiremo che cosa aveva detto. Adesso invece, in tema di alleanze politiche, sapete che il segretario del PDL, Alfano, ha riaperto la porta all'alleanza con la Lega, però questa porta è stata chiusa da diversi esponenti leghisti, tra cui Salvini, e più tardi lo sentiremo anche il sindaco di Verona Tosi. Ma sentiamo l'apertura di Alfano. Ma dove vai, se la va? Noi crediamo che invece le condizioni per un'alleanza con la Lega ci siano e crediamo anche che il rapporto con la Lega ha dato durante gli anni del nostro governo stabilità e riforme all'Italia e sarebbe tutto sommato un errore grave che una divisione tra noi e la Lega consegnasse il Nord a questa sinistra. Meglio spararsi che allearsi di nuovo con Berlusconi, una sua dichiarazione in tema di alleanze sul futuro della Lega. È questo il suo pensiero adesso? Beh, dichiarato che sarebbe come spararsi un colpo in testa, dal punto di vista del... siccome quando ti candidi alle elezioni dovresti, fra le altre cose, cercare di raccogliere il massimo consenso possibile o ridurre le perdite. E di perdite ne abbiamo avute abbastanza a questa ultima tornata, che per fortuna non erano nelle politiche, nelle regionali, né europee. Adesso riallearsi con il PDL e magari ricandidando lo stesso Premier sarebbe appunto, da un punto di vista politico, del risultato elettorale come spararsi un colpo in testa. E questo insomma è il dibattito sulle alleanze. Noi ci abbiamo scherzato così perché Alfano è propositivo, ma dalla Lega sembra che non ci vogliano sentire. Mauro Sermiento sta scendendo in pista per il Taekwondo semifinale contro uno spagnolo, García M. Non so quanto dura la gara, ma sicuramente pochi minuti. Tra poco vedremo come va. Intanto il traffico. La Zanzara. Mandovai, l'abbiamo dedicata ad Alfano, il segretario del PDL, che vuole andare con la Lega, ma la Lega non vuole andare con il PDL, con Berlusconi. Meglio spararsi, ha detto il sindaco di Verona Tosi. Sempre in tema di alleanze, per una che non nasce, un matrimonio che invece si sta celebrando, quello tra il PD e l'UDC, per esempio in Sicilia, con la convergenza sulla candidatura di Rosario Crocetta, ex sindaco di Gela, europarlamentare del PD, omosessuale e cattolico, impegnato in battaglie per la legalità, una figura sulla quale si concentra adesso il sostegno anche dell'UDC. Sentiamo Giampiero D'Alia, UDC, ex sottosegretario del governo Berlusconi, adesso l'endorsement nei confronti del post-comunista, vogliamo chiamarlo così, Crocetta. Noi abbiamo fatto questo ragionamento, abbiamo messo al centro della nostra azione un programma di risanamento economico e finanziario della regione e un patto per la crescita e lo sviluppo che il primo marzo scorso hanno sottoscritto le forze sociali e imprenditoriali siciliane, e questo abbiamo offerto alle forze politiche. Su questo abbiamo registrato la convergenza di Rosario Crocetta e di buona parte del Partito Democratico, cosa che ci fa estremamente piacere. Su questo abbiamo fatto un passo indietro volentieri. Adesso però andiamo a Londra, perché c'è Sarmiento nella semifinale del Taekwondo e c'è naturalmente anche Dario Ricci. Buonasera Alessio da Londra. Ciao Dario. Mancano 24 secondi alla fine della prima ripresa, siamo ancora sullo 0-0 e Mauro Sarmiento sta facendo un bel torneo, perché soprattutto nel turno precedente ha eliminato Azizov, la 0, oggi incrociamo tante volte l'Azerbaigian, sia qui sul tappeto del Taekwondo, sia sul ring di box. Ebbene, insomma, Sarmiento ha battuto Azizov con un 2-1 molto più evidente di quello che non ha detto il punteggio, e Azizov è il numero uno del ranking mondiale, quindi Mauro sta facendo un gran torneo, tra l'altro alla vita, alla cintura del corredo della sua fidanzata e compagna di nazionale Veronica Calabrese, che sì, quest'anno non partecipa perché, come sapete, è in dolce attesa. È finito il primo set, come si chiama? Il primo round. primo round. Ora, senza dare ragione a Grillo, che dice che ci sono delle Olimpiadi, delle discipline alle Olimpiadi che sono sconosciute e non le conosce nessuno, però il Taekwondo non è esattamente tra gli sport più praticati e noti in Italia. Quali sono le regole? Cosa devono fare per fare dei punti? Darsi dei calci? Dove? Guarda, lo sto scoprendo con te adesso, perché il bello dell'Olimpiade è proprio anche questo, che non potendo saper tutto, si impara. Diciamo, anche questo un po' può essere anche per Grillo uno stimolo. A beneficio degli ascoltatori dico che è quello sport nel quale ci si presenta col caschetto e con un bustino colorato per parare i colpi, un po' come nella box da questo punto di vista, sì, e comunque, poi ci si danno dei calci sostanzialmente. Il bersaglio è quello che in TV vedete, è il corpetto colorato dei due atleti, che con vari calci, varie tecniche, chiaramente molto spettacolari, devo dire, vanno appunto a colpire quel bersaglio. Devo dire che l'occasione è proprio dell'Olimpiade, è bella perché ti permette di avvicinarti a queste discipline, ai loro regolamenti. Faccio per esempio il tiro con l'arco, oppure basti pensare alle vittorie di Campiani col tiro a segno. Intanto lo spagnolo è in vantaggio 1-0. Dario, ti tengo lì 1-0 perché diciamo che quanti round sono? Tre? Sono tre round, adesso siamo a metà del secondo. Sì, ti tengo un attimo lì, saluto il nostro prossimo ospite, poi appena c'è un aggiornamento di punteggio e poi insomma in vista del terzo round, quello definitivo, adesso l'italiano Sarmiento in svantaggio 1-0, ma speriamo che rimonti. Salutiamo Rosario Crocetta, buonasera. Buonasera. L'abbiamo presentato poco fa nella nostra copertina, ex sindaco di Gela, ex sindaco o ancora sindaco? No, c'è incompatibilità. C'è incompatibilità, certo. Perché adesso l'è europarlamentare del Partito Democratico e candidato per le prossime elezioni regionali in Sicilia, che credo sia notizia ufficiale di oggi, si terranno il 28 ottobre? Sì, 28 di ottobre. È così? Candidato dal Partito Democratico, e sul quale la notizia, diciamo, delle ultime ore è questa: l'UDC ha speso parole di apprezzamento e quindi si profila questa unione che scontenta però una parte forse della sinistra, perché SEL e l'Italia dei Valori per ora vanno su un'altra strada, non la sostengono. No, ma loro erano già andati su un'altra strada, nel senso che Fava già Claudio Fava, sì. Fava. Io ho proposto loro le primarie, non hanno voluto accettare, per cui voglio dire, io tengo ancora il dialogo aperto e spero che possa prevalere la ragione, perché in una regione dove il centrodestra ininterrottamente ha vinto dal dopoguerra in poi e ha portato anche a quel patto scellerato, a quella gestione scellerata che c'è stata, di intreccio fra clientele, malaffare, rapporti con la politica, io credo che qualsiasi persona di buon senso, al di là persino delle appartenenze politiche, dice: bene, se abbiamo la possibilità di mettere su un programma di risanamento per la regione, che non sia una macelleria sociale, che metta in campo il lavoro e lo sviluppo, e metta i valori della legalità e dell'antimafia, pensi che nell'accordo che c'è fra i partiti già che mi sostengono c'è il fatto di non mettere neppure gli indagati di mafia quando in Italia si discute. Questo è un punto importante, cioè il vostro accordo. Noi condannati, no, infatti c'è un accordo, lei l'ha chiamato credo un codice etico. Sì. Che l'UDC e il PD hanno già sottoscritto, per cui non ci saranno indagati. Anche molti movimenti, perché io poi non sono il candidato dei partiti e basta. Io sono proposto da un movimento. Però specifichiamolo bene questo punto, non diamolo per scontato, perché non è che gli ascoltatori sanno tutto. Non ci saranno indagati per mafia nelle vostre liste, non solo condannati, ma non neanche indagati. Non ce ne sarà neppure uno, per intenderci. Questa è la prima volta che avviene in Italia. Però ecco, Crocetta, su questo c'è un po' una curiosità, perché l'UDC fino a un po' di tempo fa, per il Partito Democratico che l'ha candidata a Bruxelles e che adesso la candida alla regione, era un po' come dire, cioè, in Sicilia Cuffaro, no? la fonte dell'illegalità, il sospetto mafioso. Adesso l'UDC si è staccato, è nato il PID, dove sono andati tutti i cuffariani, e che è alleato col centrodestra. Allora noi non è che possiamo restare fermi nella storia. Se un partito si evolve, crema, fa pulizia, noi te ne dobbiamo assolutamente prendere altre, altrimenti noi è come se mettessimo su milioni di persone una sorta di condanna. Cioè, non è che i siciliani che hanno votato Cuffaro erano tutti mafiosi, c'era anche chi votava Cuffaro perché era convinto che quello era un partito moderato. Poi c'è, però, ecco, questo l'ha spiegato, è stata una scissione nell'UDC, quindi voi seguite un'altra strada. L'altro tema è quello dei... Anche Orlando viene dalla Democrazia Cristiana di San Cimino, per intenderci. Vabbè, allora questo che... però è più lontano nel tempo, Cuffaro è più recente. È più lontano, però... però, Crocetta, un attimo, perché l'altro tema è quello dei diritti civili, e anche su questo potrebbe esserci qualche frizione con l'UDC. Però resti un attimo in attesa, se vuole. Lei ha seguito un po' le Olimpiadi, perché c'è la... semifinale del Taekwondo, vogliamo sentire l'ultimo minuto e l'italiano è in svantaggio. Dario Ricci da Londra. Eccoci presenti, 50 secondi alla fine, sempre 1-0 per lo spagnolo Garcia M. E non arriva il colpo. Non arriva il colpo di Sarmiento. No, però sta forzando i tempi, pochi istanti fa ha anche subito un piccolo infortunio muscolare al quadricipite, però si è subito ripreso, adesso prova ad affondare il colpo con una serie di calci ripetuti, lo spagnolo però tiene bene, 24 secondi alla fine, 23, Mauro cerca il barco giusto, prova una combinazione, un altro calcio, ecco, ha piazzato l'1-1 in questo momento. Ah, vedi. 1-1 in questo momento, una combinazione destro-sinistro che è arrivata al bersaglio a 17 secondi dalla fine. E adesso che succede? Vanno a un tempo supplementare in cui il primo... a 2 secondi alla fine. Cosa succede adesso? Stiamo dicendo che sarebbe stato un tempo supplementare clamoroso che avrebbe dato la vittoria al primo incapace di piazzare il colpo vincente, 2 secondi alla fine, e Garcia M ha piazzato invece lui la botta vincente, e l'esultanza dei tifosi spagnoli. Lo spagnolo andrà in finale e Sarmiento invece andrà nel girone dei dannati, nel senso che ha altri incontri per provare ad arrivare al bronzo. Certo, peccato, perché a 2 secondi dalla fine certo, a 2 secondi dalla fine erano in parità e poteva giocarsela ancora nell'ulteriore round, però lo spagnolo era stato superiore per tutto il resto della gara e va bene. È così, insomma, questo è lo sport. Dario Ricci, grazie, ci sentiamo più avanti per altri aggiornamenti, sicuramente da Londra. E intanto riprendiamo Rosario Crocetta. Lei segue un po' le Olimpiadi in questi giorni? È un po' difficile. No. Sarebbe diciamo che preferirei. Non ha tempo. Da quando l'hanno candidata? La guerra. Adesso inizia tutta la macchina elettorale, perché le elezioni sono tra 2 mesi, insomma, quindi c'è da lavorare. Anche se devo dire che io ho già iniziato, nel senso che ovunque esistono già comitati Crocetta Presidente che si sono auto-organizzati, e quindi in qualche modo la mia candidatura è nella società civile. Senta, ma questa cosa qua, scusi, dei diritti civili, è un'altra cosa che non la imbarazza per niente, cioè l'UDC, che è un partito su queste tematiche molto timido, diciamo così, ha fatto qualche piccola apertura recentemente, però tradizionalmente è nemico dei diritti civili agli omosessuali, per esempio. Cioè, voglio dire, l'UDC sa cosa chi ha scelto, cioè, quindi perché mi dovrei imbarazzare? No, è lei che riceve il sostegno di un partito che non è allineato. Ma è la mia comunità, perché dovrebbe imbarazzare un partito cattolico quanto quella comunità religiosa a cui alla mia parrocchia io sono perfettamente inserito e ogni domenica vado a messa e mi confesso, scusi. Oppure e gli omosessuali sono delle persone così, che sono al di fuori della società, eccetera, oppure pensiamo che un omosessuale non possa essere credente, non possa avere una dignità di vita al di là delle sue scelte. Ma poi perché ogni volta questo tema deve ritornare? Io sogno una società in cui non si chiede più a uno se è omosessuale o eterosessuale. Però sono temi che dividono, se ne parla molto di questa questione del riconoscere i diritti. Io personalmente penso che sarebbe giusto. Però l'UDC è un partito che su questo... Crocetta, mi ascolti? Crocetta? Io l'ascolto. Ecco. Le ripongo la questione, poi facciamo la borsa e poi la riaffrontiamo, parliamo anche d'altro. La questione è dell'imbarazzo, è questa. No, naturalmente lei dice loro mi appoggiano, quindi semmai il problema dell'imbarazzo andrebbe chiesto a loro. E questo è vero, lo chiederemo anche all'UDC. Però a lei la questione è questa, cioè lei riceve l'appoggio di un partito che gioco forza condizionerà un po' anche il suo agire politico, un partito che su questo tema è timido. Però aspetti, Crocetta, prima di rispondere, facciamo la borsa, che dobbiamo farla, e poi torniamo da lei. Eccoci qua di nuovo in compagnia di Rosario Crocetta, europarlamentare del PD, candidato per le elezioni regionali in Sicilia. Io la questione l'ho posta, adesso le ridò la parola. Lei, per esempio, da sindaco di Gela, si era posto la questione del registro delle unioni civili, e da presidente della regione, qualora fosse eletto, come tratterebbe la questione? Quando sono diventato sindaco di Gela, mica sono stato eletto a San Francisco. Sono stato eletto in una città che era fra le più difficili d'Italia e i miei ragionamenti sono diventati comprensibili. Le battaglie civili si fanno con un piede avanti rispetto alla società in cui si sta, altrimenti si finisce per non farle mai. E si fanno capendo che una comunità cresce insieme, senza queste separazioni assurde e senza queste continue domande di cui mi sono stufato, sinceramente. Io voglio dire, guardi, mi piace un grande poeta che si chiama il Rumi, un poeta, grande poeta sufi, diceva: a chi mi chiede se sono acqua, se sono vento, io non sono né acqua né vento, io sono un essere umano fatto a immagine e somiglianza di Dio come tutti gli esseri viventi. È su questo che costruiamo le questioni con le persone. Se poi dobbiamo mettere sempre, ogni volta, rispetto a una regione come la Sicilia, dove la mafia ammazza, spara, fa le cose, dove la gente non sa cosa mangiare e dove è possibile finalmente che una persona come me, che ha fatto delle scelte chiare, e che sono legate a questa battaglia di risanamento, di riscatto della dignità del popolo siciliano, e vuole fare questo armonizzando anche con i diritti civili, e vuole mettere insieme società civile, movimenti laici e movimenti cattolici. Cerchiamo di esasperare questo tema, significa che eventualmente noi vogliamo che le cose non cambino mai. Sì, però se lei dice che non è acqua e non è vento, come fanno i suoi elettori a sceglierla? È l'immensità dell'uomo, dell'essere umano, che non riusciamo a capire. Siamo troppo abituati agli schemi e pensiamo di costruire steccati nelle ideologie, nelle appartenenze, nelle logiche, eccetera. Ma sa, gli steccati a volte servono per capire... E pensa che sia l'unica. Sì. Invece il mondo è una complessità molto più alta di queste divisioni di parte. L'UDC ha dimostrato, nel mio caso, di avere superato un tabù. E io questo lo registro, lo incasso come risultato positivo. Ecco, questa è già una dichiarazione che mi rende comprensibile. Da parte mia ci sarà rispetto per i cattolici e ci sarà rispetto per i diritti delle minoranze. Senta, ma lei, che sembra, anche a sentirlo parlare, fa venire a mente, anche come curriculum personale, un po' Nicky Vendola, cioè dal punto di vista della vita privata, cattolico, omosessuale dichiarato, di sinistra, con un passato di sinistra, comunista, lei è stato anche nel partito di Liberto, se non ricordo male. Perché Vendola, invece di sostenerla, va per un'altra strada? Cioè, è buffo questo, perché, no? Perché, guardi, l'identità di appartenenza e la tessera vale più dei valori in Italia, e allora si difende una tessera, un'appartenenza, un percento X che bisogna raggiungere, piuttosto che mettersi nei panni che la Sicilia è in ginocchio, che c'è una persona che credo come me abbia un passato persino coerente e sulla questione morale credo che non abbia bisogno, io sono un condannato a morte della mafia e il, non abbia, credo con semplicità, nulla da imparare da nessuno, eppure su questo nome che è di sinistra, che è laico, che è omosessuale dichiarato, che rispetta tutti, che è disponibile ancora oggi di aprire a questo partito di ventola ai DDV, si sceglie la rissa perché ognuno cioè, vuole cioè fare è un po' la malattia di una parte della sinistra, questa no? È vecchia cultura politica, vecchia cultura politica. Settarismo, le divisioni sì, a tutti i costi. Settarismo, non contaminarsi. La vita invece bisogna contaminarsi. Senta, però a proposito di settarismo, di contaminarsi e di UDC, ritorno a questo. Ieri sera Sonia Alfano dell'Italia dei Valori, europarlamentare anche lei, tra l'altro, sua collega a Strasburgo, sì. Ha detto: Crocetta tutta la vita, lo stimo moltissimo. Ah, però se l'appoggia l'UDC, no, allora io non lo sosterrò. Vede vabbè, che conta, è un altro settarismo anche le quello. Le ideologie pesano. Io non ci posso fare niente, io devo dire, io sono una delle persone meno ideologiche che esistono in Italia, in questo per questo sono stato proposto alla società civile. Senta, qual è la priorità per la Sicilia? Lei so che sta preparando anche il programma dei 100 giorni. Il programma dei 100 giorni è un programma estremamente che punta a aumentare il PIL in Sicilia. Abbiamo 5 miliardi e mezzo di fondi europei. Non spesi, andremo a negoziare a Bruxelles un modo di investimento rapido che non punti sui soliti convegni da 2 milioni di euro, ma invece punti sulle cose che servono alla Sicilia per creare lavoro e sviluppo. Abbiamo la possibilità attraverso l'energia solare, il fotovoltaico e il patto dei sintesi di incassare altri 5 miliardi e mezzo che verrebbero dalla Banca Europea degli investimenti. Senza incidere nei patti di stabilità dei comuni, che potrebbero creare da soli questi circa 24.000 posti di lavoro, 12.000 li dedichiamo ai precari per risanare il bilancio e per dare loro un impiego produttivo invece di farli ancora pesare sul bilancio della regione, gli altri 12.000 ai giovani che cercano lavoro, diplomati, laureati e molti altri saranno quelli di semplice manovalanza che potrà lavorare nelle manutenzioni, nella fase di costruzione. E poi la sburocratizzazione, uno dei provvedimenti che io preparo è questo, le autorizzazioni della regione e le concessioni eccetera devono arrivare in 90 giorni, questo non significa che devono essere sempre sì, anche i no devono arrivare in 90 giorni, perché se uno vuole costruire una casa su uno scoglio non gliela facciamo costruire, ma glielo diciamo subito, senza perdere tempo. E se invece, quando io parlo con gli imprenditori, anche a Bruxelles, anche a Roma, e se, mi dicono, ma perché dobbiamo venire in Sicilia se per avere una concessione noi ci impieghiamo 3 anni? Quando ce la danno dobbiamo pagare le tangenti ai politici e alla burocrazia, poi quando apriamo il cantiere ce lo fanno saltare se non paghiamo il pizzo, allora sono queste le condizioni. Quando noi attraverso i meccanismi delle conferenze di servizio permanenti noi utilizziamo una macchina burocratica regionale che è persino in eccesso, la decentriamo nei comuni, negli enti dove servono e sblocchiamo immediatamente il lavoro in Sicilia, che con percentuali di PIL che io credo saranno consistenti. Senta, io mi candido per lo sviluppo della Sicilia e per fare ritornare la Sicilia non una terra normale, persino eccezionale, perché è una delle terre più belle del mondo, è un'isola che ha delle possibilità enormi, ponte di un dialogo incredibile col Mediterraneo, è una terra di grande civiltà e di grande cultura, noi dobbiamo rendere più europea la Sicilia e dobbiamo anche renderla più capace di produrre risultati e dialogo, ma questo lo si fa mettendosi a posto, cosa che non è mai venuta, ed è questo quando io parlo della rivoluzione della dignità, del riscatto dei siciliani, orgoglioso di essere siciliano, perché in questi giorni ho visto degli attacchi nei confronti della Sicilia spaventosi. Da parte di chi? Facciamo gestire la Sicilia dal Veneto. Beh, se mi consente, il Veneto, in Sicilia non ci sono solo i Provenzano e Rina, ci sono i Borsellino, ci sono i Falcone, ci sono... Si riferisce alla Lega, parole della Lega? Sì, ci sono i Falcone, ci sono stati i Pio La Torre, ci sono stati i Mattarella, ci sono stati Placido Rizzotto e ci sono ancora i Montante, i Van Lobello, i Crocetta, i Lumia, le Sonia Alfano, i Tano Grasso, tutti quelli che hanno Rita Borsellino, eccetera, eccetera. Tutti coloro che hanno deciso, gli imprenditori che denunciano il pizzo e magari sono senza scorta. Però lei ha citato, un sacco di gente, ma anche per Rita... Per l'onore della Sicilia. Sì, anche Rita Borsellino, poi chiudiamo perché la lasciamo. Anche Rita Borsellino però ha dichiarato che l'alternativa non si fa... con chi è stato artefice dello sfascio della Sicilia, cioè si riferisce sempre, credo, a quel fardello. Io non so a chi si vuole riferire Rita Borsellino, però parliamo di politica. Noi abbiamo avuto 3 candidature, una di Rita Borsellino, sinistra pura, e ha perso. Prima c'era stato Orlando, sinistra pura, e ha perso. Poi c'è stata la Finocchiaro, sinistra pura, e ha perso. Se Rita Borsellino pensa che il cambiamento della Sicilia si fa continuando a perdere, faccia pure. Io penso che invece si faccia cominciando a vincere. È chiaro, cioè il suo è un discorso di realismo politico. Ci alleiamo con i moderati, vinciamo e potremo dire qualcosa in Sicilia. Altrimenti no. Sì, viene dalla Democrazia Cristiana. Lei ha citato Berlinguer addirittura. Anche Orlando viene dalla Democrazia Cristiana di Ciancimino. Allora chi è stato anche lui contaminato? Cos'è? Per via aerea che si trasmettono i crimini? No, però Ciancimino sono passati 20 anni, Cuffaro sono passati pochi, sì. Comunque su questo ha risposto, noi le facciamo gli auguri, Rosario Crocetta, di buona campagna elettorale, di buona estate e quant'altro. Grazie a voi, io spero di risentirci anche prima che finisca l'estate, perché sa, un passaggio alla radio sempre. Vediamo. Grazie Crocetta, anche per la sincerità di quest'ultima battuta, ci è piaciuta. 18:42, ascoltatori in attesa, ce ne sono già un po', l'800 24 0024, allora cominciamo a sentire qualche intervento. Domenico dalla provincia, Davide dalla provincia di Milano. Buonasera. Buonasera. Volevo intervenire sul quello che ha detto il presidente della provincia di Trapani di ieri sera. Mimmo Turano, sì. Esatto, su questa cosa. Devo dire che è agghiacciante sentire un commento di questo tipo, perché proprio non si capisce minimamente che il settore pubblico, cioè la pubblica amministrazione, è completamente fuori controllo. Non ha veramente la minima percezione di quella distanza che può avere dai cittadini e dalla volontà popolare. Noi a questo punto vediamo che determinati tipi di iniziative della pubblica amministrazione vanno completamente con i soldi pubblici fuori da qualsiasi tipo di intendimento dello stesso obiettivo della pubblica amministrazione. Che senso ha parlare, per esempio, dell'aeroporto di Trapani e del fatto dell'aumento di questo aeroporto, quando l'obiettivo di una compagnia aerea come Ryanair, tutti ben sanno che è quello di portare passeggeri, ma se viene sovvenzionata, quindi ci saranno dietro i soldi pubblici che avranno incentivato questa compagnia a venire lì, facendo concorrenza ad altri scali, ad altre province. Questo è il vero problema, cioè le province dovrebbero essere tutte abolite, non solo ridimensionate. Chiaramente è un obiettivo, diciamo, minimale quello di ridurne il numero, perché l'obiettivo vero sarebbe quello di ricondurre la pubblica amministrazione all'obiettivo per cui esiste, cioè regolare, non spendere i soldi. Grazie Davide, allora le facciamo risentire Mimmo Turano, a grande richiesta. Ce l'abbiamo, l'abbiamo sentito poco fa. No. Non ha comprato mezza pagina sul Corriere per fare un appello? Guardi, non è proprio così. Il Corriere della Sera ha fatto un'edizione speciale sul Corriere del Mezzogiorno, sì. E io ho avuto la possibilità, con un messaggio promozionale, spendendo una cifra molto modica, di far sapere qual era la mia idea sul riordino delle province. Quanto modico, se possiamo permetterci? Volentieri, credo 990 euro IVA compresa. Allora modico, sì, beh, no, sì, 1000 no, euro per una battaglia come questa, cosa vuole che sia? Compreso, IVA compresa. Sì. Siamo l'unico ente ad avere una partecipazione molto alta nella gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi, che è il primo aeroporto in termini di crescita nel mondo. Siamo nel l'unico... mondo, il primo aeroporto in termini di crescita nel mondo. Vabbè, ma questa è fantastica. Guardi. Fino al 1960 il comune di Camporreale faceva parte della provincia di Trapani. E ha chiesto di trasferirsi in provincia di Palermo e noi, come dire, noi gli amministratori dell'epoca sono stati d'accordo. E dico, al danno la beffa, il territorio lo avevamo, un pezzo lo abbiamo ceduto, ora ci troviamo a correre il rischio di essere, come dire, riordinati, chiamiamo questo termine. Io non sono... Le guerre puniche... E questo era Mimmo Turano, presidente della provincia di Trapani, e, insomma, visto che l'ascoltatore l'aveva tirato in ballo, rientriamo tra un attimo, traffico. Stasera tutti eurodeputati, Matteo Salvini, nonché segretario della Lega Nord in Lombardia, buonasera. Buonasera a voi, chi ci ascolta. Eccoci qua, allora, l'abbiamo chiamata per commentare prima di tutto la questione delle alleanze con l'ultimo invito di Alfano, il segretario del PDL, e però molti di voi chiudono la porta a questa alleanza. Poi non so se ha avuto modo di sentire le parole di Mimmo Turano, il presidente della provincia di Trapani, che abbiamo fatto risentire poco fa. Ieri sera ai nostri microfoni si lambiccava su come far sopravvivere la provincia. A parte che voi su questo siete contrari all'abolizione delle province, non ho mai capito perché. Ma non per i motivi del presidente della provincia di Trapani, il nostro problema non è sopravvivere, il nostro problema è risparmiare e rendere servizi efficienti ai cittadini. Quindi, ad esempio, in Lombardia, che è la terra che conosco, noi potremmo tranquillamente dimezzarle, ridurle a metà le province, con buon senso. Quindi non è il problema di salvare tre assessori e due municipalizzate. Il problema è che se tu cancelli, come il governo ha messo nero su bianco, la provincia di Sondrio, che ne so, con 90 comuni, alcuni piccolissimi, che partono dal lago e arrivano in alta montagna, spendi di più per rendere gli stessi servizi, perché il personale passa dalla provincia alla regione e ti costa di più, e qualcuno le strade e le scuole le deve mettere a posto. E quindi o la provincia coordina dei comuni piccoli, io non conosco Trapani e non mi permetto di giudicare, mi permetto di dire che le motivazioni della Lega a difesa di alcune province non sono quelle della sopravvivenza. Beh, senta, oggi Berlusconi ha, non so se oggi o comunque è stata resa pubblica oggi un'intervista a Libération, al quotidiano francese. È caduta la linea? Caduto Salvini. Visto. Adesso lo recuperiamo. Già a nominare Berlusconi è caduta la linea, secondo me. Non ne vogliono proprio parlare, sapere dell'alleanza con il PDL. Allora, mentre recuperiamo Salvini, non so se facciamo in tempo, però mi piacerebbe recuperarlo subito, perché sennò poi i minuti corrono, andiamo al giornale radio e non ce la fa. No, vabbè, allora sentiamo un ascoltatore, poi eventualmente riprendiamo Salvini. Domenico da Bari, buonasera. Buonasera, è da Lecce veramente, non da Bari. Ah, mi hanno scritto male. Allora, Domenico da Lecce, buonasera. Senta, ecco, io ieri ascoltando la sua trasmissione mi faccio sempre delle domande, non riesco a darmi una risposta. Ma è mai possibile che questi politici non hanno un po' di dignità? Cioè, zero, dignità zero. Hanno l'arroganza degli impuniti. Cioè, quando senti che Berlusconi, Alfano, lì come si chiama lui, Angelino, lì come si chiama lui, praticamente questa scuola... Cioè, prima hanno fatto Papa e Ciccia, come si dice da noi, con la Lega, poi si sono separati, poi vogliono rimettersi, ma sinistra, destra, non si capisce niente. Ma la poltrona, la dignità, questi scandali continui, ma non sanno che siamo stanchi. Siamo stanchi, non lo, siamo stanchi solo a sentirli, siamo stanchi. Io parlo con tanta rabbia e si può dire con tanta pacatezza, forse con un controsenso, però è allucinante sentire queste persone, voglio dire. La gente non è la Sicilia, come diceva prima lei o il signore che ha intervistato prima, che è a terra, ma è l'Italia che ha le pezze. Io faccio commerciante, cioè si vedono delle cose allucinanti in giro. La gente non ha i soldi per andare a fare la spesa, e questo ancora penso alle poltrone, a rubare, ma è allucinante. Ma insomma, lei è deluso da tutto, è sconvolto ma da, non da è tutto. Io sono deluso da tutto, sì. Io ho 53 anni e da una vita che lavoro, io faccio il mio lavoro, porto avanti la famiglia, voglio dire, con dignità. Ma questa cavolo di gente, un po' di dignità, non ce l'hanno proprio. Ma cosa dovrebbero fare per fare un sussulto di dignità? Cosa dovrebbero fare? Stare tutti zitti? Dottore, no, non lo sto bene, per un attimo. Quando io vedo in televisione, no, per esempio, un signore come Capezzone, no? Io mi c'ho luce allo stomaco. Cioè, 2 anni fa, 3 anni fa, diceva tutt'altre cose. Sì, però lei deve accettare, Domenico, che Capezzone invece parli a una parte degli italiani che l'ascoltano e poi lo votano. E quindi è così, cioè fa parte della democrazia, ci sono varie, varie ed eventuali. Sì. Il discorso sostanziale sta nel fatto che noi siamo un grande popolo, quello che vogliamo, però è il momento di dire basta. A cosa? Ma parte italiana, basta a cosa? Mi sente? No, Domenico, è lei che non mi sente. Tanto. Basta a cosa? Dobbiamo dire basta a cosa? Basta a tutto questo, a questa situazione che ormai è allucinante. Questa gente, che tutta questa gente qua, la maggior parte, il 99,99% dei politici, devono andare a casa. Devono andare a casa perché non si può passare da una barricata all'altra. Un anno fa, prima che arrivasse Monti, andava tutto bene, andava tutto bene. Mo gli stessi ti parlano e ti dicono praticamente che bisogna togliere, ma non è che sono arrivati nell'ultimo anno, attenzione, ci stanno in Italia da 20 anni a 30 anni. Vabbè, Domenico, tra l'altro sentiamo anche male. Abbiamo capito che lei non tollera i cambiamenti di casacca, d'opinione, di bandiera. Adesso ovviamente col governo Monti sono cambiate tante cose. Non è detto che siano cambiate in peggio, questo attenzione, perché è vero che prima dicevamo, sentivamo dirci delle altre cose, però valutiamo anche quello che c'è adesso. Con il governo Monti sono cambiate, ripeto, molte cose, si sta cercando di fare con questa coalizione, con questa ampia coalizione, sicuramente ci sono transfughi, c'è tutto quello che lei vuole. Però è cambiato lo scenario politico, di questo bisogna prendere atto e valutare la situazione, dire meglio e peggio, ma non è come prima, è cambiata la situazione politica. Non so se questo è chiaro a Domenico. Vabbè, adesso Salvini, basta, abbiamo perso e ci aveva evidentemente proprio Berlusconi, hanno sentito Berlusconi, si è inabissato, forse non lo so. Era in un punto dove non prende, lo ritroveremo più tardi. Adesso andiamo avanti con gli ascoltatori fino al giornale radio. Gianluigi da Ferrara, buonasera. Sì, buonasera Maurizio, mi sente? Sì, la sentiamo. Sì, buonasera, sarò telegrafico e tra l'altro mi riallaccio proprio a quello che state dicendo ascoltatori di Lecce adesso. Io credo che, visto che secondo me, ma non solo secondo me, il prossimo governo comunque avrà un percorso molto ben delineato, chiunque sia la maggioranza che uscirà dalle elezioni politiche, perché l'agenda sarà dettata da quello che ha fatto Monti, che sta facendo Monti adesso, e da quello che... Senta, la sentiamo un po' male, o toglie l'auricolare oppure parla più vicino perché sentiamo male. L'ho tolto, ecco. Stavo dicendo, siccome secondo me, secondo molti, il governo avrà, la prossima maggioranza avrà comunque l'agenda dettata da quello che viene deciso adesso da Monti e da Bruxelles. Secondo me sarebbe veramente la volta buona per avere delle facce nuove in Parlamento, secondo me tutto qua, anche perché, e poi concludo, ormai è inutile votare un'ideologia o votare contro qualcuno, perché, ripeto, secondo me il prossimo governo avrà un percorso delineato. Quindi dice lei, la differenza la faranno le persone che saranno chiamate a fare questo. Grazie, grazie. Andiamo a Franco, che ci chiama dalla provincia di Ascoli Piceno. Buonasera. Buonasera a tutti. Io avrei da dire alcune cose velocissime. Allora, una è quella della benzina, della promozione che sta facendo l'ENI, meno 20, per due giorni alla settimana, sì, meno 20 rispetto a un prezzo che hanno fissato loro, sì, e che in qualsiasi altro distributore che fa degli sconti si trova la benzina allo stesso prezzo, per cui due giorni alla settimana si allineano, gli altri giorni rubano soldi. No, non ho capito, non ho capito la... Cioè, allora, lei... dico subito, scusami, la benzina domani all'ENI costerà 1,550, ok? Sì, dai, mi sembra un po' di più, mi sembra un po' basso. No, 1,55, sì, perché fanno meno 20. Nei distributori normali, sì, normali, quelli che fanno degli sconti, il gasolio ad oggi è 1,60-1,59, ok? Però questi li fanno tutta la settimana. L'ENI fa questa cosa solo due giorni alla settimana, il sabato e la domenica, no? E nessuno si rende conto di questa specie di truffa, perché è una truffa, perché te non puoi mettere uno specchietto una giornata al mese, una giornata alla settimana, a 2-3 centesimi in meno rispetto agli altri che lo fanno tutti i giorni, per cui è una mancanza di rispetto, una pubblicità ingannevole, tutto quello che c'è. Ma scusi, ma perché una pubblicità ingannevole? Una pubblicità che dice in questi due giorni facciamo uno sconto, non è ingannevole, è molto chiaro, no, è molto semplice. No, meno 20, noi facciamo uno sconto. Facciamo uno sconto, 20. Si chiama sconto, Franco. Scusa, mi dispiace che lei non è d'accordo, ma così si chiama, è uno sconto. Meno 20, non è uno sconto, perché lo sconto lo fanno tutti. Uno sconto e mi scrivi a fianco meno 20, tu fai meno 20 rispetto a un prezzo di mercato. Se tu mi alzi il prezzo, poi mi fai meno 20, mi stai prendendo... Cioè, lei sostiene che i prezzi dell'ENI siano più alti in modo tale che una volta che vengono abbassati da questo sconto vanno in pari con quelli degli altri. Però questa è una teoria che non lo so se coincide con la realtà, perché questo vorrebbe dire che gli altri 5 giorni su 7 la benzina dell'ENI è più alta della media delle altre compagnie, e non mi risulta, caro Franco. Non so perché anche di fronte a una cosa come uno sconto c'è qualcuno che non è d'accordo. Vabbè, Franco, se vuole resti in linea, la risentiamo dopo il giornale radio. 19:13 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, 18, 20 e 30, gli orari della Zanzara estate. Allora facciamo prima i titoli del TG3, poi rientriamo e abbiamo recuperato anche Matteo Salvini. Taglia ai tribunali, il governo salva quelli nelle zone a rischio mafia, in arrivo norme per difendere le aziende strategiche. Napolitano, legge elettorale, impegno inderogabile, basta rinvii, le preoccupazioni del Colle per lo stallo sulla riforma. Il presidente della CEI, Cardinal Bagnasco, e i cattolici devono essere più presenti nella vita pubblica, in politica siano numerosi e formati. Esclusiva TG3 Aleppo, quartiere di Salah Eddin, le immagini di un freelance italiano in prima fila con i ribelli siriani, morte e distruzione. Voli cancellati, passeggeri infuriati, la compagnia low cost Winjet sull'orlo del fallimento, disertato l'incontro con l'ENAC, rischia di perdere la licenza. Calcio scommesse, 10 mesi di squalifica per Conte, tecnico della Juventus accusato di omessa denuncia, prosciolti Pepe e Bonucci. A Londra Clemente Russo in finale per l'oro nei pesi massimi, ed è bronzo per Mangiacapre nei superleggeri. Stanotte la semifinale di Cambarelle. Eccoci qua, Salvini, segretario della Lega Nord Lombardia, ben ritrovato. Scusatemi. Io capisco. Telecom o la TIM, che dir si voglia, che ballerina. Capisco che solo la parola Berlusconi abbia provocato la caduta della linea, però insomma, almeno parlarne, se no così si esagera. Più da milanista che da leghista in questo frangente. Ah sì, della delusione più da milanista? Beh, insomma, la campagna acquisti è tragicomica, però tornando a cose serie... Sì. È più preoccupante un'eventuale ridiscesa in campo come candidato premier. Ecco, perché è questo, diciamo, l'elemento più dirompente in questo impasse. Perché insomma, Alfano vi ha proposto di nuovo l'alleanza. Io non credo che. Credo che tra di voi ci sia anche un po' di tatticismo nel dire no. Però l'elemento Berlusconi è uno, l'altro è il sostegno al governo Monti. Quale dei due pesa di più per riproporre l'alleanza tra voi e il PDL? Ma guardi, il problema dell'alleanza è l'ultima preoccupazione della Lega in questo momento, che ad oggi correrebbe da sola. Alfano ci propone un'alleanza, ma sostiene un governo che nei confronti del Nord sta tagliando miliardi di euro. Martedì Alfano vota col governo Monti il taglio, ad esempio, di 200 milioni di euro agli ospedali della Lombardia, e giovedì mi propone di allearmi, e non c'ho mica scritto Giocondo sulla fronte, però non puoi tagliare, ecco, tagliare il martedì e allearti il giovedì. Detto questo, come sì. Lega abbiamo fatto faticosamente, con mille peripezie, comunque un ricambio che ci ha portato a rinnovare quasi tutta la classe dei dirigenti e a ritrovare forza, entusiasmo e consenso. Berlusconi tutto può fare fuorché essere presentato come nuovo. Ci abbiamo già provato in tutte le maniere, abbiamo già dato, ci siamo alleati. Dal punto di vista economico, per il Nord abbiamo portato a casa poco, e quindi o anche il PDL si dà una cambiata e... insomma, Maroni Alfano potrebbe funzionare, con Berlusconi non se ne parla. Berlusconi e Bersani dall'altro fronte non sono sicuramente nuovo. Però più che di nomi mi preoccupo di progetti. Va bene, questo mi sembra giusto. Poi insomma si sa che di fronte al tema delle alleanze i politici poi avete sempre questa reazione di dire parliamo prima dei progetti. Però è anche giusto. Però certo Berlusconi non può essere il nuovo, ma lui non si propone come il nuovo. Però usa questo argomento di dire mi chiedono di candidarmi. Lei ci crede che ci sia tutta questa gente nel PDL e dintorni che gli chiede di candidarsi? Ma penso che come classe politica sì, perché fossi un politico del PDL probabilmente l'unico modo per tenere insieme un partito che altrimenti la pensa in 32 maniere diverse è avere Berlusconi. Come elettori direi proprio di no, almeno stando a quelli che trovo, che vorrebbero un cambiamento in casa PDL come c'è stato in casa Lega. Quindi la classe politica del PDL probabilmente in Berlusconi ha una garanzia di sopravvivenza. L'elettorato del PDL penso, almeno al Nord, che abbia bisogno di messaggi, stimoli e proposte nuove. A proposito di proposte nuove, mi sembra che in una intervista a Affari Italiani, o è stato bravo chi l'ha fatto l'intervista a fare le domande, oppure lei in qualche modo ha aperto anche a una possibile alleanza addirittura con il PD al Nord. Era un titolo un po' forzato, ma il contenuto è che chiunque si proponga di aiutarci a risolvere il problema economico del Nord è benvenuto. Io faccio l'europarlamentare. In Europa quasi tutti i partiti autonomisti, federalisti o indipendentisti corrono da soli. E spesso la sinistra è autonomista e federalista, quindi io dico, il sindaco di Torino, che so, Piero Fassino, ha detto il patto di stabilità impostomi da Roma io non lo rispetto e spendo i soldi dei torinesi per i torinesi, che è un ragionamento intelligente a prescindere dal colore politico. Nelle casse dei comuni lombardi ci sono 7 miliardi di euro, siamo su Radio 24 che è la radio di Confindustria. Pensate quanto lavoro facciamo ripartire se potessimo spendere quei 7 miliardi di euro di risparmi nelle casse dei comuni lombardi. Ad oggi non si può, però magari disubbidiremo e rispenderemo, e chi ci dà una mano sarà il benvenuto. Sempre in questa intervista a Affari Italiani dice però una cosa che secondo me insomma forse poteva non dire, nel senso che quando dice che il PDL è attrazione meridionale, contano gli Alfano, il Cicchitto, la Sicilia e la Calabria più della Lombardia e del Veneto, ma scusi, PDL però non è che sia cambiato da questo punto di vista, è Cicchitto e Alemanno hanno sempre contato i soldi per Roma, i soldi per Catania, c'erano anche quando eravate alleati, allora c'è anche un po' di strumentale in tutto questo, in questa freddezza adesso. Noi riconosciamo di averci provato in tutte le maniere e di non esserci riusciti. Noi sappiamo benissimo che i partiti nazionali, vale per il PD e il PDL, hanno la maggior parte dei voti, degli eletti e degli elettori al centro-sud. E quindi è naturale che facciano in primis gli interessi del centro-sud. Abbiamo provato ad allearci col PDL per riequilibrare la situazione nel nome del federalismo. Oggi è l'undicesimo anniversario della morte del professor Gianfranco Miglio, che diceva le tasse rimangono laddove vengono prodotte. Ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, il richiamo è troppo forte, vi faccio l'esempio delle province, lei prima mi chiedeva delle province, vengono cancellate province in Lombardia di 1 milione di abitanti e poi PD e PDL salvano province di 80.000 abitanti come quella di Isernia. E quindi evidentemente la spinta del centro-sud, la spinta elettorale è ancora molto forte sia nel PD che nel PDL. Senta, ma lei dice noi potremmo andare da soli, lo sbarramento che vi potrebbe preoccupare cos'è? Al 10%, quello del 5% non vi preoccuperebbe, no? No, non abbiamo mai badato agli sbarramenti, alle leggi elettorali. Però insomma... Rischiare di rimanere fuori. Ma siamo nati fuori e potremmo continuare a combattere politicamente anche stando fuori dal Parlamento nazionale, però io vedo che i parlamentari tirolesi e valdostani non si alleano con nessuno e portano a casa risultati per l'Alto Adige e per la Val d'Aosta. In Catalogna i partiti autonomisti vanno da soli, prendono una barca di voti e poi si alleano a seconda dei casi di qua o di là per portare soldi a Barcellona, visti gli scarsi risultati dell'alleanza con il PDL, perché no una Lega che si presenta da sola, che va all'opposizione ovviamente visto che non arriviamo al 51% dei voti e poi a seconda dei casi. È brutto dire delle convenienze, però quando io parlo con gli artigiani della Lombardia che rischiano di chiudere, parlo sì di convenienze, perché la tassazione è così squilibrata all'interno del paese Italia, è il doppio a nord rispetto che a sud, che mio dovere è provare a riequilibrarla. Senta, un'ultima cosa, questa proprio gliela servo su un piatto d'argento, perché per voi è una porta aperta, insomma. Io ho letto il titolo e ho detto no, questa è una sparata di qualche leghista che si è inventato la notizia. A Milano lo scuolabus, con un decreto di qualche giorno fa, riservato ai nomadi, ai bambini nomadi, no? Poi siamo andati a guardare il decreto e invece c'era proprio scritto che decadeva lo scuolabus per una serie di scuole e restava per i bambini che stanno a più di 2 chilometri dalla scuola e per i nomadi. Sì. Cos'è? Un colpo di sole di qualcuno che ha perso la testa oppure dal vostro punto di vista invece proprio coerentemente la politica, non so come definirla, della sinistra su questi temi? Questa è una delibera della giunta Pisapia. Noi denunciamo il rischio in campagna elettorale, fummo anche denunciati per istigazione all'odio razziale, che è un certo tipo di ultra. Però qualcosa di strano c'era perché ci fu qualche figurante che girava per Milano. Vabbè, ma lasciamo perdere. Noi avevamo detto occhio perché magari la giunta Moratti non è il massimo, sì. Però questi l'avevano scritto comunque, la giunta Pisapia comunque è coerente, non è che si inventi cose nuove. Il fatto che avrebbe dato particolare attenzione e sostegno anche economico ai Rom, non sgomberando i campi, aiutando i Rom, finanziando feste, attività culturali e quant'altro, c'era scritto e quindi i dati sull'insicurezza di Milano stanno lì a dimostrarlo in questo anno, noi possiamo solo fare opposizione. Poi, per carità, i bambini che vanno a scuola, a me possono essere rom, bolzanini o portoghesi, mi cambia poco. È folle escludere i bimbi milanesi se abitano a più di 2 chilometri dalla scuola e invece includere i bimbi rom, perché questo è razzismo ed è esclusione, ma al contrario. Sembra che non abbiano le gambe per camminare, cioè è incredibile. Ma purtroppo la metà dei fondi pubblici, spesso e volentieri, penso alle case popolari, penso ai bonus per i bebè, penso ai bonus per l'affitto, ai bonus per la disoccupazione, vanno a cittadini stranieri. Noi come Lega, quando proviamo l'evidenza come criterio, sì, ce la bocciano perché dicono che siamo razzisti, allora lo scuolabus va bene per i rom. Poi no, ma che si cerchi di favorire, per l'amor del cielo, per esempio la questione della frequenza scolastica dei rom è sicuramente importante, perché è una delle cose che li tiene nella legalità. Però che non possono fare 2 chilometri a piedi come gli altri. Offrire tutto, lo offri anche ai bimbi italiani, ai bimbi milanesi, a prescindere da dove abitino, perché altrimenti è esclusione al contrario. Qua certo, c'è una certa sinistra che, per essere politicamente correttissima, è toglie questo il contributo al disoccupato italiano e riesce a darlo. Secondo me è questo, concordo. Auguri. Noi comunque opposiamo, noi siamo all'opposizione e la faremo fino in fondo per gli scuolabus e non solo per gli scuolabus. Va bene, grazie, buona serata, buona estate, non ci risentiamo. Matteo Salvini, grazie. 19:25, allora, ancora un po' di interventi, anzi in attesa già da un po', all'800 24 00 24, poi ci sarà la borsa, altri ospiti, insomma andremo ancora a Londra, anche se è tutta attesa le Olimpiadi, perché ci sono i 2 semifinali con pallanuoto, pallavolo e il nostro Dario Ricci. Intanto però chi facciamo sentire? Ludovico, che chiama da Milano, buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Ma abbastanza bene, ce la caviamo, è venerdì sera, insomma, quindi. Allora, io sono un inventore. Complimenti, di cosa? Ho 75 invenzioni su energie rinnovabili, risparmio energetico e mobilità sostenibile. Ho anche delle invenzioni anche contro gli incendi, che avevo proposto nel 2008. Ah, questo è interessante. Per esempio, cosa hai inventato contro gli incendi? Ho un sistema che può rendere, ad esempio, il cherosene avio, quello degli aerei, sì, una sostanza non più infiammabile, si può adottare anche contro gli incendi. In più, dei sistemi che possono essere utilizzati per trasportare meglio l'acqua nei punti dove l'autocisterna non può arrivare, dove praticamente ci sono alberi, case, e superare questi ostacoli. E purtroppo quando andai nel 2008 a Roma a parlare alla Protezione Civile, mi dissero che praticamente non avevano soldi da investire in invenzioni, in brevetti, perché non potevano spendere soldi. Però quanti soldi hanno speso per quanti ettari sono andati in fumo, quanti animali sono morti e quanti danni sono stati creati dagli incendi. Io, ad esempio, con le mie invenzioni potrei dare lavoro a tantissima gente. L'Italia ha bisogno di utilizzare elementi, non solo la mia, ma anche di tutti gli inventori italiani, per creare occupazione, lavoro e ricchezza. Però se non vengono dati soldi a chi ha le idee per creare occupazione e sviluppare prodotti nuovi, innovativi, come ad esempio io motori elettrici, generatori elettrici, motore d'aria compressa, compressori, turbine marine, o un brevetto che... Ma lei ne sforna una alla settimana, ma cos'è, un ingegnere, ha studiato? No, ingegnere, no, autodidatta. Ho frequentato l'università ingegneria energetica per 2 anni, ma non ho potuto dare nessuna materia. Però ho creato 6 nuove invenzioni. Mio nonno era un inventore, mi ha passato. Quindi ce l'ha un po' nel DNA, ecco. Mio nonno correva assieme a Enzo Ferrari ed erano carissimi amici con Enzo Ferrari. Mio nonno costruiva delle macchine e correva con Enzo Ferrari. Perciò ce l'ho nel DNA. Ma questo non è che vuol dire molto, cioè, che se suo no, nonno... Però comunque... Se mio nonno lavorava negli aerei, io però non saprei. Però io Ludovico, le idee ce le ho, sì, però conosco, ho conosciuto Mario Monti, Corrado Passera, Corrado Clini, sono anche amico di Jacopo Giliberto, suo collega di Radio 20, del Sole 24 Ore, che adesso è il portavoce. Tutte amicizie inutili, però, perché non è riuscito a vendere nessuna delle sue idee. Però il suo intervento, grazie Ludovico, sembra un po' così, magari un po' estemporaneo, però forse tocca un aspetto, no? Che insomma, in Italia giovani che abbiano delle idee brillanti o meno brillanti, questo poi dipende, per sviluppare, insomma, sarà un luogo comune, però è vero, non ci sono luoghi di sbocco a livello di brevetti, a livello di finanziamenti, perché sembra che, insomma, se Bill Gates, qualcuno ci ha scritto un libro, no? Se Bill Gates fosse nato a Napoli, è vero, non l'avrebbe Bill Jobs, Steve Jobs, che poi è quasi la stessa cosa, ma insomma era su Steve Jobs, un autore napoletano, Menna mi pare che si chiami, non avrebbe fatto nulla, perché in effetti se le idee ci sono, ma nessuno si cura di. Che poi sarebbero ovviamente anche guadagni per le imprese che potrebbero mettere in pratica queste idee. Fatevi avanti, Ludovico da Milano. Se volete vi diamo il numero, ha moltissime idee nel cassetto, alcune le ha esposte poco fa. Borsa. Alessandro da Pesaro, 800 24 0024, benvenuto. Ah, buonasera. Eccoci. Intanto qua Volevo fare i complimenti per la trasmissione. Grazie. E per i temi trattati. E poi perché date voce all'uomo comune, insomma, no? Sì, beh, certo, i microfoni aperti sono fatti per questo, sì. Quello che mi chiedevo io, no? Che spesso vediamo degli interventi politici in varie trasmissioni televisive, no? Non ne faccio una questione di colori, per carità, no? Dove si trattano magari ricorrentemente determinati temi, come magari la legge elettorale, pure le unioni civili omosessuali, per esempio, no? L'articolo 18, no? Secondo me ci sarebbero problemi, insomma, di un'entità un po' più grave. A settembre-ottobre chiuderanno non si sa quante migliaia di aziende in Italia. Qui non è il problema l'articolo 18 del facile licenziamento, è che non c'è lavoro. Qui le aziende chiudono, sicuramente a causa del costo del lavoro in Italia. 28 euro orari si è calcolato, l'operaio polino ne prende 8, gli altri vanno per tasse e per altre situazioni. Nell'est europeo costa 4 euro un operaio. Con la globalizzazione non so chi possa venire in mente di investire in Italia, no? Pronto? Sì, la sentiamo Alessandro. E poi solitamente in questi dibattiti, ogni volta che si pone i nostri, diciamo, politici, gli si pone una domanda ben precisa, non rispondono, insomma, sono sempre evasivi, no? Quindi il costo del lavoro, e quindi nessuno secondo me potrebbe venire a investire in Italia, gli stessi italiani, la grossa industria va all'estero, il piccolo non riesce, è costretto a chiudere, non è concorrenziale chiaramente, no? Come azienda. Prima cosa, che è fondamentale. Seconda cosa che mi chiedevo, no? L'evasione fiscale. Da quando sono ragazzino, io ho 45 anni, si parla sempre di evasione fiscale, no? Il problema dell'Italia è quello. Secondo me l'Italia è in colabrodo, insomma, no? È come una pasta dove esce l'acqua e tu chiudi i buchi ma se ne aprono altri, perché secondo me è un pozzo senza fondo, no? E quindi non sarebbe forse idoneo, mi chiedo io, che non sono un economista, cercare di fare un tipo di fisco, no, all'americana, dove negli stipendi praticamente dei pubblici e dei privati gli si dà il netto lo stipendio e si pagano le tasse in proprio, a quel punto otterrebbero da conto lo scontrino del caffè, il costo del calzolaio, a quel punto penso sia difficile evadere, no? E questa è una proposta che ritorna sempre. Insomma, è indubbio che ha un grande fascino, una grande attrattiva questa ipotesi di poter detrarre tutto, e quindi spingerebbe tutti a chiedere ricevute di scontrini. Non lo so perché non si fa, evidentemente non rientra nel nostro sistema, oppure qualcuno dirà non si vuole fare la lotta all'evasione fiscale, però mi pare ultimamente i dati di qualche giorno fa, settimana scorsa forse, sulla lotta all'evasione fiscale della Guardia di Finanza nei primi mesi dell'anno, tutti quei blitz criticati, l'hanno fatto solo a Cortina, poi l'hanno fatto anche ad Abano Terme, l'hanno fatto solo ad Abano Terme, poi l'hanno fatto anche a Capri, l'hanno fatto a tutte le parti, è venuto fuori che gli esercizi controllati, mi pare un 30% circa erano, insomma, c'erano attività non del tutto legali e hanno pescato qualcosa. Mi sembrano piccoli passi rispetto agli ultimi 45 anni di storia, per stare ad Alessandro che dice che da quando è bambino che si parla di lotta all'evasione fiscale. È vero. Salutiamo il nostro prossimo ospite nel frattempo, Giovanni Favia, consigliere regionale dell'Emilia-Romagna del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera. Prima di tutto è un piacere averla perché ospite, perché è raro che esponenti del Movimento 5 Stelle, insomma, partecipino a trasmissioni talk show. Si sa che c'è un po' di ritrosia perché a volte temete strumentalizzazioni e cose di questo tipo. Partiamo dalla coda di tutta la vicenda. Lei ha criticato Josefa Idem perché ha risposto alla provocazione di Grillo sulla questione delle Olimpiadi. Grillo aveva detto sono cos'è che il bromuro sponsorizzato delle multinazionali, il trionfo del nazionalismo. La Idem ha risposto a una domanda alle Olimpiadi e ha detto non doveva usare il palcoscenico, la vetrina olimpica per intervenire. Che doveva fare la Idem però, mi scusi? Doveva stare zitta? Cioè, le hanno fatto una domanda e in fondo... Perché lei dice è un esponente politica la Idem, perché è responsabile sport del PD. È questo. Ma che guarda, non... io ho risposto innanzitutto perché ieri tutti i giornali online riportavano la notizia con una grande svista, che secondo me invece era importante perché bisognava informare i lettori correttamente, ovvero che la Idem è responsabile sport del PD Emilia Romagna ed è stata anche un assessore PD. La Idem non deve stare zitta, io non voglio negare ecco, questo diritti... mi rincuora, sì. No, figurati, scherzi. Non voglio negare i diritti civili e politici a nessuno, anche se non trovo corretto che nel momento in cui hai addosso la divisa azzurra, sei appena scesa dalla canoa e rappresenti tutta l'Italia, ti metti in un contesto olimpico a parlare di politica. E le hanno fatto la domanda, però bisogna dire la verità, le hanno fatto la domanda, lei ha risposto un po', poi infatti dopo ha detto ma io patacca, l'ho detto, non l'ho detto, però è stata tirata un po' per la giacchetta. Lei forse poteva evitare di entrare nella polemica, però io mi domando perché doveva evitare di entrare nella polemica. La polemica l'ha voluta Grillo, l'ha voluta tutta la vita Beppe Grillo. Io mi domando come mai su tutti gli atleti della spedizione italiana proprio a lei, sfortuna, esponente PD, è dovuto capitare di parlare di Grillo. E perché secondo lei? Ma secondo me, visto che non sono tanto sprovveduti, la cosa era abbastanza, come dire, preparata. Sapevano che la Idem è un esponente del PD, anche se non hanno scritto, e la domandina gli è arrivata a fagiolo. Dai. Sapevano che la Idem è una che parla, che ha delle idee, che argomenta. Certo, non è lo sportivo sprovveduto che non ha idee. Beh, poi non è una che gli altri della spedizione azzurra siano delle persone sprovvedute, no, incapaci di parlare, no? No, però aggiungo un'altra cosa, che la Idem è, come dire, la rappresentazione stessa delle Olimpiadi. Cioè nel momento in cui Grillo attacca le Olimpiadi, poi mi interessa anche sapere lei cosa ne pensa su questo, è lei che ne ha fatte 8, credo. Anch'io in effetti fossi stato il giornalista gliel'avrei fatta a lei la domanda anche per questo. Insomma, lei ne ha fatte 8 di Olimpiadi, cosa ne pensa del fatto che Grillo dice sono il monumento della... no, com'è che ha detto? Il trionfo del nazionalismo, quindi forse anche questo, no? Si poteva... L'opportunità del momento, rappresentando tutta l'Italia... e soprattutto al fatto che poi sia stata omessa, devo dire, tranne dal Sole 24 Ore, non lo dico perché è il vostro editore, è del vostro gruppo, tranne il Sole 24 Ore che è stato l'unico a riportare l'informazione in merito che lei aveva questo incarico politico, sì. Esattamente, l'attivismo politico della Isa. C'è una grandissima atleta che come atleta io stimo, ma l'altra cosa secondo me è che ha fatto una disinformazione contro il Movimento 5 Stelle, perché c'è un'opera di discredito contro di noi che è estremamente, come dire, invasiva, è stata proprio il pensiero di Grillo. Allora, io non sono l'avvocato di nessuno e non ha bisogno soprattutto di avvocati, ma quello che ha scritto Grillo è in rete, nel suo blog. Riassumerlo in le Olimpiadi sono nazionalismo, punto, è sbagliato, perché il ragionamento non è tanto, come dire, una critica a chi fa sport o a chi gioisce per le vittorie del proprio paese. Io sono un grandissimo tifoso, mi diverto tantissimo nel vedere le Olimpiadi, tante discipline, tranne quella dove spazzolano il ghiaccio con i dischetti che non l'ho mai capita, le guardo con grande piacere. Quindi, cosa dice Grillo? Grillo dice che gli stati, le nazioni, usano il medagliere come indice di potenza per poter gonfiare i bisogni di nazionalismo che ha la politica, e basta vedere quello che è successo in Cina, dove ci sono grossi problemi nel rispetto dei diritti umani e le bambine vengono prese, i bambini tolti alle famiglie. Ci sono dei reportage bellissimi che si possono trovare in rete, messi già in tenera età, sottoposti a 8 ore d'allenamento, e alla fine i risultati della Cina sono arrivati. Questo è possibile, però durante non è che questa cosa qua dell'est. Sì, questo è possibile, vero, cioè vero, non lo so, non ho elementi per dirlo, però è possibile, verosimile, è stato detto più volte. Non so se dipenda dalle Olimpiadi o se lo sport sia un altro dei campi nei quali si esercita la pressione, la repressione e quello stile di vita lì cinese. Non credo che l'Olimpiadi sia il pretesto. Certo, le frasi di Grillo uno poteva leggersele tutte, è vero, la stampa ha fatto una sintesi, però quando si arriva a dire che, leggo, virgolettato, sono un bromuro quotidiano sponsorizzato dalle multinazionali, bla bla bla, il trionfo del nazionalismo, non vincono gli atleti ma le nazioni, insomma, poi che ci sia a volte un tradimento dello spirito olimpico, del vero spirito olimpico, anche questo è in dubbio. Una volta si andavano i non professionisti alle Olimpiadi, le Olimpiadi dovrebbero essere le Olimpiadi dei popoli, e Grillo alla fine cita i giochi senza bandiere. È passato come un attacco innanzitutto ai cittadini che esultano per le medaglie, io sono uno di quelli, e soprattutto come un attacco allo sport, alla passione degli atleti alle Olimpiadi. Non è così, no, ovviamente, per po' me più personalmente, per cosa è passato, è passato per non perdere un'occasione, visto che ci sono le Olimpiadi, per avere un titolo, un trafiletto, una platea per dire la propria. E in questo caso attaccare la questione delle Olimpiadi, che per amor del cielo può essere criticabile, perché poi non è che, insomma, che siamo innamorati di tutto quello che è legato alle Olimpiadi, però ecco, io questo ci ho visto semmai da parte del fondatore del suo movimento, di un non perdere l'occasione. Ultimamente sembra che stiano aumentando queste occasioni, ma quindi lei condivide comunque lo spirito di quello che ha detto Grillo, cioè non c'è un... No, assolutamente, ma non perché, come dire, debba farlo, proprio perché l'ho letto e ho detto... E lo trova condivisibile. Assolutamente, ma le dico un'altra cosa. Quello che lei ha detto, che sicuramente lei lo pensa in buona fede, e che ha detto anche lei in merito a questa smania di Grillo. Grillo è 5 anni che scrive con questi toni, e che adesso fa molta più notizia quello che scrive. Ma soprattutto... questa malafede in Grillo, che qualcuno vede, ha fatto la sparata per avere un titolo sui giornali, sì, è falso, perché nelle scorse Olimpiadi di Pechino Grillo fece un post, mi pare si chiami le Olimpiadi dei Popoli, fa esattamente le stesse identiche cose. Era la stessa cosa, cioè anche allora cercava un modo per avere un titolo sui giornali, visto che c'erano le Olimpiadi, non è che... Guardi, era il blog, non andava mai sui giornali quello che scriveva. Ah vabbè, sì, perché il blog 4 anni fa era d'Italia, non penso che, come dire, 5 anni fa Beppe Grillo avesse bisogno di... Avrà detto il suo pensiero sulle Olimpiadi. Spesso i pensieri di Grillo sono molto forti, fanno discutere. Io cerco sempre di guardare quello che è lo spirito, il principio e il messaggio, più che, diciamo, i toni, che sono sempre molto duri e contro, diciamo, il politicamente corretto, contro il quieto vivere, contro la supercazzola, diciamo. È molto chiaro quello che dice, si capisce sempre molto bene. Poi può essere, sì, no, poi l'altra cosa che le chiedo è perché una presa di posizione così, cioè per arrivare a dire che cosa, visto che poi Grillo e voi fate politica e quindi vi candidate anche per prendere decisioni politiche e per, insomma, appunto, per fare politica, cioè questo tipo di presa di posizione, per esempio contro le Olimpiadi, per arrivare a dire che cosa, che andrebbero abolite, che andrebbero diminuite? Per andare a esprimere il suo pensiero, che ovviamente poi, lo ripeto, deve chiederlo direttamente a Grillo, non ti chiedo a me, perché Grillo non si concede. Sì. Il mio obiettivo era semplicemente quello, visto che sono un consigliere in Emilia Romagna ed ero al corrente del fatto che la Idem fosse un esponente del PD, per un fatto semplicemente ho fatto una piccola operazione di verità e ho aggiunto un elemento che i lettori probabilmente non avevano. Ripeto, nulla contro la Idem, che è una straordinaria atleta, io al suo posto me lo sarei risparmiato, era un momento diverso in cui godersi quel tipo di, proprio la passione sportiva senza la politica. Alle domande, se si vuole, si può anche non rispondere, come è normale che uno sportivo faccia davanti alle domande politiche, punto. Poi non è successo niente, come dire, no? Ci sono ben altri problemi che io affronto in regione, dalla cementificazione del territorio agli sprechi di milioni di euro di questa classe politica che speriamo vada a casa il prima possibile. Punto. Ma un'occhiatina ogni tanto a qualche gara gliela dà? Io sono tutta l'estate ancora in ufficio a lavorare. Ogni tanto stacco con qualche collega che mi segnala quando c'è qualche gara interessante. Cosa vado a in particolare? Tipo la box? Non so lei di che cosa è appassionata a livello sportivo. Ho guardato mezzo match di box, dove un grandissimo atleta italiano Mangiacapra ha vinto. Ho visto anche lo se scherma. Oggi però in realtà Mangiacapre, questo conferma che lei non le segue con grande attenzione, ha perso oggi, sì, in semifinale, però vabbè, ha vinto Russo, però ha vinto Russo l'incontro, sì, per l'accesso alle semifinali, che era stato straordinario, sì, sì. E come le stavo dicendo, lavoro parecchio e purtroppo non ho modo di seguirle. Vabbè, però la sera dopo cena qualcosa si vede, insomma, le sintesi, gli sport di squadra le piacciono di più. Non so, stasera ci sono le semifinali di pallanuoto e pallavolo contro il Brasile e la Serbia. Le guarderà qualcosa? Ma spero di riuscire a vedere qualcosa. Noi comunque siamo persone normali. Cioè, la pallavolo, per esempio, in Emilia è abbastanza radicale. Molto diffusa, molto diffusa. Assolutamente, assolutamente. Sono molto soddisfatto per Jessica Rossi, che è di Crevalcore in provincia di Bologna, che ha vinto l'oro, sì, al Giro del Cartello e l'ha dedicato ai terremotati. È stato un momento molto bello, molto. Anche la nuotatrice Grimaldi ha ricordato Bologna e l'Emilia, anche se Bologna non è stata toccata dal terremoto, però comunque ha voluto fare questa considerazione. Assolutamente, ci sono dei momenti bellissimi, ma nulla toglie che si possa fare una critica più generale al sistema. Ecco, ogni volta che qualcuno esce un po' dal coro nelle dichiarazioni è considerato un eretico e viene martellato dalla stampa. Rileviamoci un po', c'è Grillo, un blog dal 2005 che dice quel che pensa, ripeto, si può vedere o meno. Mi sembra che c'è un po' troppo stress, poco interesse rispetto a quello che noi facciamo nei consigli e molto stress appena Grillo un attimo si permette di fare delle critiche. Anche lui ha i suoi civili e politici, il suo blog è un blog privato, è suo, lui si prende la responsabilità di quello che scrive e diamoci un po' una calmata, insomma. Va bene, grazie Giovanni Favia, consigliere regionale dell'Emilia Romagna, Movimento 5 grazie Stelle. Buona serata e buona visione delle Olimpiadi, va, già che ci siamo. Allora, Maurizio da Parma, ancora qualche ascoltatore, buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Complimenti a lei per questa zanzara estiva. Grazie. Siamo qua. Però io la sento male, con un eco o viva voce o auricolare. Mi sente bene adesso? Forse meglio, sì. Niente, volevo dire questo, il titolo del mio brevissimo intervento potrebbe essere effetti collaterali delle province, no? Tutti hanno sbandierato in campagna elettorale l'abolizione delle province, poi nessuno l'ha fatto. Quello che io voglio sottolineare è che non saranno certo i 300-400 dipendenti di ogni provincia italiana che risolverà il problema del bilancio dello Stato, ma un intervento un po' più radicale sugli effetti collaterali della presenza delle province e di quello che ne consegue. Perché per ogni provincia noi abbiamo N uffici a livello provinciale. Faccio un esempio molto semplice: i numeri di emergenza 113, 118, 117, 115 e non vado avanti, ma arriviamo a 7, 8 di questo genere di cose, sono a livello provinciale. A ognuno di queste corrisponde una centrale operativa che funziona 24 ore su 24, cose molto importanti, ma oggi con la tecnologia ne basterebbe una sola per un'intera regione. Perché non si fa? Perché abbiamo questa proliferazione di enti istituzionali a livello provinciale, adesso ho detto soltanto quelle di emergenza perché è più facile comprendere, ma poi abbiamo i vari uffici dell'INPS, dell'ufficio delle entrate, del territorio, quindi io non so se Bondi si è avventurato a fare questo censimento, ma io penso che se oggi l'Italia, anzi l'italiano, è il cittadino che paga più tasse, le tasse più alte del mondo, e perché noi dobbiamo mantenere tutto ciò? Chi ci metterà le mani? Questo è abbastanza vero, è abbastanza tautologico. Grazie Maurizio, tra l'altro non la sentiamo benissimo, quindi io la saluterei qua, e invece saluterei un altro ospite, Maurizio Grassano, deputato del gruppo Misto. Buonasera. Sì, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua. Allora, l'Unità ha fatto il conto dei deputati, estate, quindi insomma si fa un po' il punto di una serie di vicende, il conto di tutti i deputati, gli onorevoli transfughi che passano da un gruppo all'altro. Lei è uno di quelli che ha la lista più lunga, Grassano, sa? Perché... Davvero? Dunque... Mi sa che l'hanno malinformata. No, allora aspetti io perché ho la lista più lunga e l'hanno malinformata. No, ho detto è uno di quelli che ha la lista più lunga. Forse che ce l'ha più lunga, vada occhio, è Nucara, Francesco Nucara, che è anche lui del gruppo Misto, e poi di deputati che hanno passato il gruppo ce ne sono una marea. E ha ragione, ce ne sono 47. No, allora, niente, il passaggio è dal... Lei è stato eletto con la Lega? No, io sono stato eletto con la Lega, ma non sono mai... Cioè, scusi, lei è arrivato, subito... è subentrato io a Cota. Arrivato, sì, però io sono entrato subito nel gruppo Misto, quindi non sono mai entrato nel gruppo della Lega. Cioè, lei è quindi la Lega non conta. Cioè, lei nel momento in cui è subentrato a Cota, aveva già rotto con la Lega. Misto. Esatto, quindi sono entrato subito nel gruppo Misto. Cioè lei in un anno di attesa, che però era stato candidato con la Lega, quindi eleggibile con la Lega, non è stato eletto perché era il primo non eletto, Cota è andato alla Regione Piemonte, nel frattempo lei ha rotto con la Lega. Come mai? Che cosa era successo? Motivi personali, non mi sembrava più che mi rappresentasse, non c'erano più i presupposti di fiducia. Eravamo nel 2010. 2010. Giugno 2010 sono entrato. Quindi gruppo Misto, poi Misto Liberal Democratici. Poi dal gruppo Misto sono sempre stato nel gruppo Misto, sono entrato in una componente del gruppo Misto che era i Liberal Democratici. Con Guzzanti forse? No. Liberal Democratici era Contanoni. Contanoni, ok. Sì. Poi Popolo e che Territori. Anche lui faceva nel gruppo Misto. Ecco, poi questo è stato il primo passaggio, il primo vero passaggio dal gruppo Scilipoti. Misto a Popolo e Territorio. Con Scilipoti. Ma sì, no, ma non era Scilipoti il mentore di Popolo e Territorio. No, il capogruppo erano altri. Chi era il capogruppo? Il capogruppo attualmente Moffa, Silvano Moffa. Moffa. E poi dunque, aspetti, finiamo. Misto Iniziativa Liberale... No, esatto. Misto Iniziativa, cioè è tornato al Misto, ha lasciato quindi il gruppo Popolo e Territorio, e poi nella nuova componente Iniziativa Liberale. Se vuole contare i passaggi sono in teoria due, dal Misto al gruppo Popolo e Territorio, e poi dopo il gruppo Popolo e Territorio sono ritornato al Misto. Poi c'è la Lega, e farebbero tre. No, la Lega non sono mai entrato in Lega. Sì, ho capito, però Grassano, lei è stato eletto con la Lega, che è ancora più grave. Se vuole contare anche la Lega, però... non. A livello parlamentare. Cioè, mettiamoci nei panni degli elettori che hanno votato Grassano nella Lega. Poi lei è entrato gruppo Misto. Cosa si sarebbero aspettato questi elettori che hanno votato me? Che il non 14 so. Dicembre 2010 avessi passato la barricata e avessi votato per i compagni o che avessi appoggiato Berlusconi? La Lega il 14 dicembre 2010 che cosa ha votato? Non lo so. Pronto? È rimasto un po' lì, la Lega, glielo dico io, la Lega 14 dicembre 2010 ha votato per Berlusconi. Io coerentemente il 14 dicembre 2010, giusto per accontentare gli elettori che mi hanno dato il voto e che mi hanno mandato lì, ho votato per Berlusconi. Poi? Ha visto. E poi ho sempre votato per Berlusconi, basta, non ho mai votato per nessun altro. Cioè lei della Lega non gliene frega nulla, gliene fregava solo di Berlusconi. Cioè Berlusconi era il suo mentore. Da quando sono uscito dalla Lega, sì. No, ma io dicevo, mettendosi nei panni degli elettori della Lega, cioè qualche movimento l'ha fatto. Ora non neghi tutto, perché sennò non è, cioè, no, non è neanche non senza nego stare nulla, qua. Per carità, io non nego nulla, certo, ho fatto il movimento, sono entrato nel misto, sono andato nel Popolo e Territorio e poi dopo sono ritornato nel misto. Eccoli qua i miei movimenti, basta, finito. Poi lei ha rilasciato un'intervista al Fatto, che hanno titolato, esatto, se non mi ricandido muoio di fame, perché lei ha dei problemi giudiziari con la sua azienda. Lei ha letto l'intervista? Sì. E allora vede, se lei ha letto l'intervista, le faccio notare un passaggio. Allora, quando in fondo, quando dice, ma lei lo sa che non sarà ricandidato, io ho risposto, resto nelle mani del Signore. Intanto mi sono portato avanti diventando amico del presidente della Caritas, così avrò un posto dove mangiare e dormire in caso di bisogno. Allora capisce che se io ho un posto dove mangiare e dormire in caso di bisogno, anche se non mi ricandidano, non muoio di fame. Quindi il titolo che hanno fatto è falso. Ok, cioè lei non muore di fame, però per mangiare va alla Caritas. Esatto, certo. Quindi insomma non è che se la però passa benissimo. Ma tutto lo stipendio, l'autostipendio che gli italiani sognano la notte, o come incubo per quanto ci costa, o come desiderio che vorrebbero averlo, dove come fa? Sa che io se vuole faccio cambio con il suo di stipendio. Subito, Se vuole, guardi, faccio cambio con il suo. Così, diciamo, a occhi e croce così. Non le conviene, però... Ma io invece, guardi, io sono convinto che mi conviene. Però se vuole faccio cambio con il suo. No, subito, gli assegna la moglie, però se li tiene lei. Lei c'ha un'ex moglie che gli sta pagando gli assegni. Purtroppo... Questo non è che glielo toglie nessuno, guardi, perché se le do il mio stipendio siamo alla sorte. Qua ha ragione. Se il giudice mi ha condannato a pagare gli alimenti alla mia ex moglie e a mio figlio... giustamente ha fatto bene, perché io sono un discolo, lo ammetto, e quindi quello li devo pagare, belle non ce n'è. Poi c'ha delle grane giudiziarie per una ex azienda che è fallita. Non è fallita, ma no, insomma, ma lei deve farsi informare meglio. No, ma io poi, glielo sto chiedendo, lei può tutto il tempo per spiegarci, ci spieghi. No, è un'altra roba. Cosa è successo? Lei dovrebbe chiedere a Parenzio, che Parenzio sa tutto. Guardi, Parenzio è in vacanza, oggi, lasciamolo in vacanza. Perdere. Parenzio, Parenzo si chiama, in vacanza. Lo so, ma io lo chiamo Parenzio, che così si incazza. Quando lo chiamo Parenzio, si incazza. Mm. E lo faccio apposta. Allora, Grassano, ci salutiamo qua, oppure ci dice qual è il suo approdo politico adesso che la legislatura sta per finire e sembrava che lei stesse facendo un po' degli appelli, dai, per trovare una collocazione politica. La mia collocazione politica, come ho detto prima, sono nato nel centrodestra, morirò nel centrodestra, quindi la mia collocazione politica è sul centrodestra. Però adesso il centrodestra non c'è più, cioè c'è il governo Monti, ci sono il PDL e la Lega alle prossime elezioni. Berlusconi è morto? Io spero di no, Beh, non oggi... me l'hanno dato per morto, ho guardato le agenzie ancora oggi, le guardo tutti i giorni. Oggi però ha detto che non è sicuro di candidarsi, cioè sembra che abbia fatto una marcia indietro, glielo dico perché se lei aspetta Berlusconi potrebbe anche... Allora pazienza, cosa vuole che le dica? Mi resta la carità se andiamo bene così. Quindi insomma, se non è col PDL non sarà certo con la Lega, perché non credo che la prenderanno più. Questo punto. No, assolutamente, ma io non sarebbe neanche corretto da parte mia andare a chiedere alla Lega. Ma a lei non c'è nessuno nel suo collegio elettorale che le chiede spiegazioni di tutta questa situazione? Cioè qualcuno le dice, Grassano, ma... Pronto? Sì, pronto, sono qua, non riuscivo a capire... Cioè lei ha la coscienza a posto sul fronte del suo collegio elettorale, il fatto che l'hanno votato con la Lega, poi ha cambiato completamente, è andato di qua, è andato di là, eccetera. Ma non ho cambiato completamente, io ho la coscienza a postissimo, io non avrei la coscienza a posto, se nel momento del bisogno, e quindi nel momento di appoggiare il governo Berlusconi-Lega, avessi votato contro Berlusconi, avessi votato contro quello che ha votato i leghisti. Insomma, lei allora ha sbagliato all'inizio a candidarsi con la Lega, doveva candidarsi col PDL, questa è la sostanza. Cioè, riassumiamo così. Mi sono candidato con la Lega perché all'inizio ne dividevo ancora. Perché oggi la Lega dice che è meglio spararsi che andare con Berlusconi. Questo dice. Ma io non sono più della Lega, sono uscito. Questo così, diciamo, per sottolineare. Quindi, essendo uscito dalla Lega, io invece sono uno di quelli convinti che secondo me Berlusconi in questo momento è la persona adatta. Mm. Ma lei pensa ad avere un suo seguito elettorale? Cioè, 14 dicembre del 2010, quanti voti può mobilitare Grassano? Ma non è una questione di quanti voti posso mobilitare io. E allora, il problema è un altro. Il 14 dicembre 2010, secondo me, no? Berlusconi, una volta che aveva preso la fiducia, doveva andare al Colle e rassegnare le dimissioni e andare a votare, all'epoca, dicendo che giustamente con due o tre voti di scarto non si può governare un paese. Quello io avrei fatto così. Però scusi, lei l'ha sostenuto questo governo che secondo lei si doveva dimettere quando era con Popolo e Territorio, allora questa è un'altra incoerenza. Non è vero. Perché sì, lei dice che si doveva dimettere, invece l'avete tenuto in vita, avete rallentato per 6-7 mesi la fine di un governo che poi è finito. Non è vero, questa invece è una mia idea, dopodiché se il presidente Berlusconi ha ritenuto di fare diversamente... Io ho appoggiato lui e giustamente devo appoggiare anche quello che ritenevo. Ma in ogni caso, dopo, alla fine, quando Berlusconi è salito al Colle e si è dimesso, no? Lì doveva imporre un'altra cosa. Io sa chi avrei imposto come Presidente del Consiglio? No, chi? Pronto? Di Pietro. Di Pietro? Sì, di Pietro. Io avrei messo l'Italia... Ma lei ha bevuto, Grassano? Cosa ha bevuto adesso stasera? Di Pietro? Niente. Avrei messo l'Italia nelle mani di Pietro, al posto che Monti, di Pietro. Vabbè, facciamo una pausa, adesso ce la spiega meglio questa cosa di Pietro, io stavo per salutarla, però qua ci sconvolge. Facciamo una pausa. Grassano vuole peggiorare la sua situazione, adesso dopo aver detto tutto quello che ha detto se ne è uscito che avrebbe voluto sostenere Di Pietro, un governo con Di Pietro. Però è caduta la linea e non lo recuperiamo più. Ma il caldo a quest'ora è poco probabile un colpo di sole. Forse è più probabile un aperitivo bello forte e gli sia partita questa dichiarazione. Boh. TG1. Il governo riduce i tagli ai tribunali, salvi quelli in zone mafiose, si profila golden share per aziende strategiche, ok ad anticipo aiuti per i comuni. Addio al papà di E.T., è morto a 86 anni Carlo Rambaldi, mago degli effetti speciali e vincitore di 3 premi Oscar, realizzò anche King Kong e Alien. Olimpiadi di Londra, Clemente Russo in finale nel pugilato, combatterà domani sera per l'oro. Bronzo per Vincenzo Mangiacapre, dopo la seconda doppietta consecutiva 100-200 metri, Bolt entra nella storia dei giochi. E allora, visto che la serata dal punto di vista delle Olimpiadi ci riserva ancora parecchie emozioni, andiamo a Londra. Dario Ricci, ben ritrovato. Quali sono i tuoi piani questa sera? E raccontaci un po' anche poi di questa giornata, Dario. Sì, eccoci qua, appena sbucato fuori dalla metro di West Brompton, sono entrato nel Palazzo dello Sport di Eurosport, fra mezz'ora Italia-Brasile di pallavolo e già c'è tutta la torcida brasiliana fuori, Alessio, quindi sarà durissima questa partita qua, sarà durissima. Sarà come giocare al Maracanã, soprattutto perché li conosciamo bene, i tifosi brasiliani. E poi sarà come giocare una partita di calcio, cioè lo stesso livello di difficoltà. Il Brasile è una bestia nera per noi. Assolutamente, c'è l'altro, vale la pena ricordare, ci hanno fermato in semifinale a Pechino 2008 e ci hanno strappato l'oro dal collo nella finale di Atene 2004, tanto per ricordare due precedenti. Ogni tanto si è riusciti a fargli qualche sgambetto, stasera sarebbe la serata adatta. Tra l'altro nella formazione brasiliana manca Vissotto, che è uno dei punti forti, infortunato a Linguine, che è sostituito da Wallace, quindi vedremo un po', ma sarà dura. Sarà sicuramente una partita vincente, almeno questo è quello che possiamo immaginare. Dario, questa tu la seguirai e ce la racconterai, poi invece, credo poco più tardi, in vasca, che succede? Succede che il Settebello affronta la Serbia, anche qui semifinale da 5 stelle, sfida epica tra due squadre che hanno scritto la storia di questo sport. fino l'anno scorso li abbiamo battuti nella finale di Shanghai, che ci ha permesso di tornare sul trono di campioni del mondo. Chiaramente è un'altra sfida dopo quella con l'Ungheria, col meglio possibile in vasca. Il set è bello di campagna, però non ha limiti, soprattutto grazie alla guida di questo tecnico che, del resto campione olimpico nel 92 a Barcellona, ha già detto: sogno la finale con quello che era l'allenatore dell'Italia di allora, lo ricorderai, Ratko Rudic, ora qui dalla Croazia. Quindi, e tu Dario, perché hai scelto la pallavolo rispetto alla pallanuoto? C'è stato qualcosa, cioè questioni organizzative, oppure proprio hai preferito questo sport stasera? Ma devo dire che qui all'Olimpiade ogni mezz'ora, anche con i colleghi, con gli amici, ci aggiorniamo sul piano, perché viene cambiato costantemente in base a trasporti, risultati e obiettivi anche editoriali, sì. No? E devo dire, abbiamo riuscito a fare nel pomeriggio questa bellissima incursione all'Excel Arena per raccontare la vittoria di Clemente Russo, la sfortunata semifinale di Mauro Sarmiento. E poi ci eravamo dati come appuntamento la pallavolo, perché devo dire è stata proprio la monetina a decidere, il più classico dei sorteggi. Sì. Ho fatto ieri sera in stanza da solo e via. E poi Cammarelle in tarda serata per un'altra medaglia, no? Assolutamente, il bronzo già c'è, diciamo questo, perché la nostra nazionale pugilato raramente delude. Cammarelle sfida l'Azero Medvedov, oggi c'è stato questo intreccio con l'Azerbaigian, che sì, a forza di ripeterlo diventerà anche meta turistica appetibile, perché il russo ha battuto Mammadov, lo stesso Sarmiento ha affrontato l'Azero Zedidov nel quarto di finale. Completiamo la tripletta con una sfida veramente difficile, perché Cammarelle è sì campione olimpico in carica, sì, è sì boxer di raffinato talento, forse il migliore in circolazione, ma anche una schiena logorata da tanti anni di tante battaglie. Se dovesse andare in finale sarebbe veramente un'altra straordinaria impresa, quindi vediamo un po'. Tutta la serata da godersi davanti agli schermi, naturalmente. Grazie Dario, grazie Dario Ricci, buona serata, buona partita, e ti ritroveremo naturalmente più avanti nei collegamenti, gli aggiornamenti su tutte queste sfide di cui abbiamo parlato. Abbiamo recuperato Maurizio Grassano. Sì, buonasera, eccolo qua. Sì, buonasera. Pensavo che la dichiarazione su Di Pietro l'avesse scossa al punto di, insomma, di far cadere la linea. L'ha scosso lei, mica me. No, sì, ho capito, però cioè, lei non si turba per niente, questo l'abbiamo capito. Maurizio Grassano non gliene frega quasi niente di niente in generale. O almeno cerca di farlo, di farlo sembrare. Cosa scelta Di Pietro adesso? Allora, le spiego, no? Un ragionamento logico. Dato che Di Pietro è lì che scatica, addirittura vuole andare da solo, vuole ricoprire l'incarico di premier, di primo ministro, io gliel'avrei fatto provare cosa voleva dire fare il primo ministro. Ah, ho capito, cioè lei dice gli avrebbe fatto scaldare un po' i muscoli, esatto, così, insomma. Sì, ma non si fa così, però, non è che certo, si fanno fare così, le prove a tutti. Almeno gli italiani vedevano come governava, e se governava bene lo premiavano anche. Vai, Grassano, quindi insomma adesso... E noi gli davamo tutti, sì, l'appoggio esterno, solo lui. Conclusa l'esperienza di Monti, tra qualche mese... Lei cosa vuol fare? Cioè, finisce l'esperienza politica, torna a Alessandria, torna a casa o va a bussare alle porte di qualche partito? Ma di qualche partito? Io in teoria sono dentro il PDL, quindi non è che devo andare a cercare altri partiti. Dopodiché vedranno loro se utilizzarmi in qualche maniera, se... Cioè lei è a disposizione del mister, come si dice in questi casi? Io sono a disposizione del mister, è il mister che decide la squadra. Però se si passa alle preferenze ai collegi uninominali, lei con tutto questo trascorso di cui abbiamo appena parlato, crede di avere qualche chance, oppure uno come lei va bene solo con le liste bloccate? Perché non lo so io se... Io le posso dire, io le posso posso dire una cosa, no? Io ho fatto per 20 anni il consigliere comunale ad Alessandria. L'ultima volta, 4 anni fa, e questa era l'ultima volta, sì, ma anche le altre volte era uguale, sono stato eletto, io sono stato il primo degli eletti, sì, in consiglio comunale ad Alessandria con oltre 600 preferenze personali. Era l'1,2% di tutti i votanti. Io 600 però non bastano per essere eletto in Parlamento, sono un po' poche. Sì, però capisco, certo, che però, lei rivendichi il suo passato. Ma per quale partito è stato? Era... Per la Lega. Io non ho mai cambiato nessun partito, io sono entrato in Lega, dopodiché sono uscito dal Lega e sono andato nel PDL, basta. Non ho fatto nessun altro passaggio. Ma scusi, ma perché lei fa parte del PDL però non è iscritto al gruppo del PDL? Ma perché io sono entrato nel MIST, non mi sembrava giusto entrare nel gruppo del PDL. Sono entrato nel MIST, sono rimasto nel MIST. Vabbè, insomma. Ce n'è di strada da fare, non lo so. Grassano, vuole aggiungere qualcosa? Vuole fare qualche appello ai suoi concittadini di Alessandria? Vuol tornare a fare il consigliere comunale? L'unico appello che vorrei fare è questo, e glielo rinnovo: facciamo cambio di stipendio tra me e lei. Va bene, Grassano, se questo le piace come proposta. Faccio un appello personale, se accetta, io sono qui. Noi se possiamo aiutarla, perché appunto, ripeto, avendo visto il titolo dell'intervista sul fatto se qualcuno non mi ricandida muoio di fame, ci siamo preoccupati, l'abbiamo chiamata. Poi ci ha spiegato che c'è la Caritas e va bene. Grazie Grassano, buona serata. Che grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Arrivederci. Abbiamo la pausa e poi i titoli della 7 e poi ancora ascoltatori 800 24 00 24, e potete naturalmente anche commentare la performance di Grassano. Oh, sembrava tutta una macchietta, una barzelletta, però non ci dimentichiamo che quello che abbiamo sentito era un parlamentare della Repubblica Italiana. Titoli della 7. L'ultimo Consiglio dei Ministri, prima delle ferie, dà il via libera ai tagli sulla giustizia. Rispetto a quanto annunciato, salvati 6 tribunali nelle zone ad alta densità di criminalità organizzata. Confermata la chiusura invece di 220 sedi distaccate e 667 uffici di giudici di pace. Rinviato invece alla prossima riunione, il 24 agosto, il confronto sull'agenda di autunno, con al centro le misure per l'abbattimento del debito pubblico. Sulle trattative tra Stato e mafia, dopo le stragi del 1992, nuovo attacco di Antonio Di Pietro al presidente Napolitano, briga per impedire di conoscere i fatti, andando oltre i confini del suo mandato. Gianluca Orlando intanto chiede al Quirinale di intervenire in favore dei PM antimafia. Il portavoce Napolitano replica al sindaco di Palermo: sbaglia destinatario, il presidente è da sempre con la magistratura. Un impegno inderogabile, basta con i rinvii, è quello che il Presidente della Repubblica Napolitano chiede al Parlamento sulla riforma della legge elettorale per non tornare alle urne con il vecchio porcellum. Duro il leghista Calderoli, un diktat inaccettabile, mentre Gasparri si dice d'accordo sulla riforma elettorale ma aggiunge nessun veto sul presidenzialismo. Nuova giornata di caos per i passeggeri della compagnia aerea siciliana Winjet. In crisi finanziaria, gli aerei restano a terra. Alitalia è interessata all'acquisto, organizza voli alternativi, mentre l'ENAC lancia l'ultimatum: garanzie entro lunedì, altrimenti blocchiamo l'emissione di nuovi biglietti. Calcio scommesse, ora è ufficiale. L'allenatore della Juventus, Antonio Conte, è squalificato per 10 mesi. Il club bianconero gli rinnova il piano sostegno e tira un sospiro di sollievo per Bonucci e Pepe, assolti invece. Retrocessi in Lega Pro Lecce e Grosseto. Ai giochi di Londra le medaglie azzurro arrivano dalla box. Mangiacapre si ferma a bronzo, mentre Russo combatterà per l'oro. Tra poco semifinali di volley e pallanuoto. Con i suoi effetti speciali aveva fatto sognare e impaurire il pubblico di tutto il mondo. Alien, E.T., King Kong, innamorato di Jessica Lange, tanto per citare solo i 3 capolavori che gli valsero la conquista di altrettanti Oscar. È morto a Lamezia Terme. Carlo Rambaldi aveva 86 anni. Così la 7, allora 800 24 00 24, abbiamo Mariano che ci chiama da Latina. Buonasera. Prego. Il signor Grassano vuole cambiare lo stipendio con il mio, io sono disponibilissimo. Sì, ma ne trova una fila lunghissima di gente che, credo, no? Che fa il cambio, sì. E poi l'antipolitica sarebbe fa via il 5 Stelle, scherziamo? Per quanto riguarda il mio intervento, volevo semplicemente dire che secondo me il governo Monti sta sbagliando su tutta la linea, nel senso che iniziando dalla riforma del lavoro che sta già iniziando a creare problemi nell'ambito aziendale. Infatti io ho un contratto fisso, ma essendo a contatto con molti ragazzi a contratto, già hanno problemi in quanto oggi devono stare fuori 90 giorni con l'approccio di questa riforma. E 90 giorni significherebbe che in un momento di picco lavorativo si rischia di perdere il posto di lavoro e l'eventuale richiamata. E questo è già un problema che è serio per molti. E questi ragazzi poi che non vengono richiamati chiaramente vanno a prendere l'assegno di disoccupazione, il che grava ancora sulle casse dello Stato. Dunque già questo fa pensare che è negativa. Per quanto riguarda Monti invece secondo me è stato troppa pressione fiscale sul medio e basso ceto che ha portato a un crollo della domanda e chiaramente le difficoltà delle medie e piccole imprese a reperire liquidi. Già avevano difficoltà. Sarebbe meglio una patrimoniale, per esempio, per recuperare i soldi? No, sarebbe meglio, era l'unica, solo che chiaramente l'appoggio a questo governo viene dato da dei settori dello Stato che la patrimoniale non la vogliono. È evidente che però oggi nessuno si deve meravigliare perché tutti lo sapevano che ci sarebbe stato questo problema di insolvibilità da parte delle aziende. Questo era evidente. Se pensiamo che Henry Ford negli anni 40 aumentava lo stipendio ai suoi operai, mica era stupido Henry Ford, perché sapeva che comunque il potere d'acquisto che doveva mantenere medio alto poi avrebbe permesso a lui di vendere le macchine ai stessi operai. Questo è il concetto di economia, però purtroppo oggi sembra che si è perso il volume della ragione e chiaramente chi ha soldi e chi ha potere non lo lascia, questo è il problema, ma l'Italia sta andando a fondo, la realtà è questa. Buonasera. Buonasera, Mariano ci ha lasciato un po' sconsolati. Vabbè, traffico, rientriamo tra un attimo. Riprendiamo con i vostri interventi, ci spostiamo a Milano, dove ci chiama Maurizio. Buonasera. Buonasera, allora io vorrei parlare in merito a Schwarzer, il marciatore alto tedesco. L'aveva detto bene, poi si è rovinato da solo. Schwarzer si chiama, sì. Ok. Allora, in merito a questo marciatore che secondo me è l'esempio di come gli sportivi non possono e non devono assolutamente essere un modello per l'umanità o per i giovani in generale, come spesso sento dire, ma non tanto per il fatto che abbia utilizzato comunque sostanze dopanti illegali, che secondo me in tutta la vicenda è la cosa più piccola, ma per come ha gestito la vicenda stessa, cioè per il fatto che è venuto fuori con delle relazioni assolutamente scriteriate del tipo che la sua carriera è finita. Uno a 27 anni non può dire che la sua carriera è finita perché ha almeno 10 anni di carriera agonistica davanti potenzialmente, non può fare una conferenza stampa dove si mette a piangere. È caduto il nostro Maurizio. Andiamo, dove andiamo? Riccardo, no, andiamo, Antonella che ci chiama da Roma. Riccardo lo sentiamo dopo. Buonasera Antonella. Buonasera. Eccoci qua, benvenuta. Grazie. Io veramente volevo parlare con Salvini quando c'era... Ma stasera è una maledizione, cascano tutti. Voleva parlare con Salvini, sentiamo cosa le voleva chiedere, la recuperiamo. Intanto andiamo a Eraldo che ci chiama da Genova. Eraldo? Molto buonasera. Sì. Sono in linea, Eraldo. Sì, la sentiamo, per ora. Complimenti per la trasmissione. Grazie. E la mia domanda praticamente è riferita a quei signori che aveva detto che bisogna cambiare le teste, che bisogna modificare la politica. In certe parti ha ragione. Però... vorrei consigliare che tutti quelli che si presentano come candidati delegati onorevoli o consiglieri regionali o comunali, di fare un po' di scuola amministrativa, come esiste in altri paesi come la Francia, l'Inghilterra e anche la Germania, che tutti quelli che fanno politica e anche i funzionari di Stato fanno l'école amministrativité, ovvero fanno quella scuola, quella specie di master, quella specie di preparazione che indica come si svolgono e come si scrivono le leggi, come si gestiscono anche le leggi, come si promulgano le leggi. Una piccola battuta, non so, un giorno se lei ha occasione di andare nella stanza verde del Consiglio dei Ministri, cioè sì. Il Consiglio dei Ministri, poi sono le porte, poi c'è la stanza verde. Nella stanza verde ci sono tutti i vari funzionari. Quando entrano i ministri, sì. Entrano poi dei faldoni con tutte le leggi che vengono promulgate. Inizia il segretario e dice la legge numero tale si dà per letta e poi viene approvata. Ora, generalmente, avete visto le leggi come sono? Sono dei pacchi, a volte sono 25 centimetri di altezza, di spessore del 25-31. E quindi mi vorrei dire chi è quell'onorevole, quel ministro che mai si è letto una legge. Ma lei come fa a sapere tutte queste cose, tutti i passaggi, la stanza verde, il segretario, la cosa? Sembra che ci sia stato. Probabilmente sì, probabilmente, diciamo così, no? Ma quindi questo è un probabilmente o c'è stato? Cioè, sveli questo retroscena, questo suo racconto nasce da quale tipo di esperienza? Io ci sono stato, ma poi evidentemente quando viene approvata, che a volte si apre la porta perché entra un sottosegretario, un ministro in ritardo, si sente dire ok, viene approvata la legge e si dà per letta. Dopodiché dice si dà mandato al segretario, al ministro, al direttore dell'ufficio legislativo, dell'ufficio tecnico, eccetera, di riscrivere le parti, diciamo così, tecniche. Ora, molte volte anche la legge, quando esce, non è poi così come è stata approvata dal ministro. E se lei si ricorda, circa anni fa, quando il ministro Maroni non era ministro degli interni, ma aveva un altro ministero, della giustizia mi sembra, e praticamente si incatvolò perché aveva approvato una legge che poi rileggendola era l'esatto contrario di quello che lui aveva capito. Vabbè, insomma, Eraldo, però lei per tutto questo per dire che ci vorrebbe più competenza, ci vorrebbero delle scuole, sicuramente ha ragione, il personale politico dovrebbe passare anche attraverso questo, mi verrebbe da dire dovrebbe assomigliare di più a quello che lei descrive che non a Grassano. Grassano non si offenda, però insomma credo che di esprimere un sentimento diffuso, almeno poi per quanto mi consta, sulla competenza che lei evoca. Però insomma siamo alle solite, questo è quello che abbiamo adesso e con questo dobbiamo fare i conti. Eraldo, non so se voleva aggiungere qualcos'altro. Ecco sì, no, volevo aggiungere questo, sì. Bisognerebbe che anche chi si presenta candidato facesse un po' di questa scuola. Ma la scuola non c'è, e quindi bisognerebbe prima inventare la scuola. Con la tecnologia si possono anche collegare, anche col CEPU, alle scuole estere internazionali. Cioè il suo quindi messaggio è tornate a scuola, questo è Eraldo da Genova, vabbè, parte di scherzi, è chiaro quello che lei voleva dire, grazie. Eraldo, andiamo ad Antonella che ci chiama da Roma. Buonasera. Buonasera. No, ricollegandomi a quello che ha detto adesso l'ultimo ascoltatore, lui bisogna metterci d'accordo con noi stessi. O vogliamo i professionisti della politica, come per esempio un D'Alema che ha fatto la scuola di Frattocchi e sicuramente sa leggere e scrivere e anche far di conto perché gliel'hanno insegnato bene una volta il vecchio PCE, una bellissima scuola di partito che magari diffondeva idee che potevano essere più o meno condivisibili, però li formava i suoi. Sì. Quindi se vogliamo i professionisti della politica, allora va bene il discorso dell'ascoltatore precedente. Se invece vogliamo gente che viene dalla società civile, che porti nel Parlamento le proprie esperienze, la propria competenza professionale che può essere diversificata, eccetera, eccetera, quindi possiamo trovarci di tutto, dall'avvocato di Grido all'igienista dentale. Che vogliamo? Però mi scusi Antonella, ho capito che vuol dire, cioè lei vogliamo... cosa... Antonella... più di moda il professionista della politica, no? Antonella, non ho capito, lei sì. Però con questo suo diciamo intervento, cosa vuole dire? Che io sono quasi quasi a favore adesso, visto gli ultimi risultati, quasi quasi bisogna rimpiangere il vecchio, quasi ecco. Quasi meglio i professionisti della politica, almeno effettivamente capivano quando si scriveva una legge. Beh, questo indubbiamente è importante capire quando sì. Si scrive una legge. Infine erano meglio loro, ecco, di tanto vituperati professionisti della politica. Quindi tutta l'innovazione, tutti i professionisti, gli avvocati, attenzione. Imprenditori, a meno che appunto se ci danno l'avvocato di Grido, la persona che è capace, bene, ma se le segreterie politiche poi ci propinano poi con il voto bloccato qualcos'altro, a quel punto ci dobbiamo accontentare di quello che abbiamo. Poi abbiamo l'onorevole precedente che... Ma scusi, se invece, adesso la dico così, se invece di dover scegliere tra i professionisti delle frattocchie e gli avvocati di Grido, pagassimo trasparentemente e bene gli assistenti parlamentari, magari un po' meno i parlamentari, per fare tutto quel lavoro di preparazione che ci vuole. Ma ha ragione, ma guarda che scusi. Gli assistenti parlamentari sono bravi, i consiglieri parlamentari sono bravi. Appunto, perché poi il lavoro non è neanche detto che debba essere il ministro a fare la legge. Esatto, anche il discorso che faceva prima della Sala Verde, il ministro conosce bene la sua legge, quello che porta lui, non è detto che debba conoscere anche quello degli altri, ci sono i suoi consiglieri giuridici che poi... Vabbè, però insomma questo argomento l'abbiamo sviscerato. Antonella, c'è dell'altro o era tutto qua? Proprio a proposito di classe politica, sì. Quella che stava offrendo diciamo migliori sviluppi secondo me è la nuova generazione della Lega, guarda un po', cioè proprio Salvini, con il quale mi sarebbe piaciuto di più parlare, diciamo avrei voluto approfittare della sua presenza, Tosi e Maroni credo che rappresentino un po' il meglio di questo scenario politico. Avrei voluto, diciamo, da loro maggiore coinvolgimento nella politica nazionale, cioè li vorrei di più che si preoccupassero dell'Italia e non solo così a livello territoriale. Penso che possano fare bene, soprattutto Tosi e anche il giovane. Ecco, lei però da Roma, detta da Roma, questa cosa ha ancora più significato, però lei dice che dovrebbero occuparsi più di temi italiani e meno del nord, però guardi, la Lega si occupa principalmente solo e soltanto dei problemi del nord, questa è proprio la sua peculiarità, è così. È vero, però li vorrei un pochino più che si spendessero anche per il paese, perché il bene del paese è uno dei motivi secondo me per i quali il federalismo stenta sempre a decollare in Italia, perché gli altri italiani lo vivono come solo e soltanto come una questione del nord e quindi non diventa mai una vera questione nazionale. Invece sarebbe sicuramente utile che il federalismo fosse una questione nazionale. Grazie Antonella. Avevamo evocato Riccardo da Pistoia. A questo punto facciamolo parlare. Riccardo. Sì, buonasera. Eccoci. Senti, io volevo parlare riguardo al governo Monti e poi volevo fare un'altra precisazione sulla mia regione, sulla regione Toscana. Posso? Certo. Allora, governo Monti, se la Bocconi sforna questi geni, secondo me la Bocconi andrebbe chiusa, perché se questo è il meglio dell'Italia, figuriamoci il peggio. Io ho fatto economia e commercio alla facoltà di Pisa e i professori, la professoressa Franceschi ci insegnava che più si aumenta la pressione fiscale meno si incamera, quindi non capisco, anche oggi hanno aumentato l'accise sulla benzina il 10 agosto, cioè, ma lui ci sta prendendo in giro, cosa ha fatto? Mi ricordo Buttiglione disse solamente il nome, perché non lo chiamate Buttiglione e gli fate spiegare questa cosa? Solamente il nome di Monti farà calare lo spread di 300 punti. Ma Buttiglione è laureato in filosofia, cosa ne sa lui di economia? Perché ragiona di economia se non capisce? Ma cosa ne sa? Se ha avuto un governatore della Banca d'Italia che poi è diventato Riccardo, presidente. Ci dobbiamo salutare qua, mi dispiace, non c'è più tempo, lei ha preso il giro largo. Io ringrazio tutti gli ascoltatori, Nadia Zimmetti, Cristian Goldoni, Laura Vanossi, Pietro Lacorte, un saluto da tutti, buon weekend. Radio 24, la passione si sente.